I'll go no more a-roving with you, fair maid. A-roving, a-roving, since roving's been my rule, I can. I'll go no more a-roving with you, fair maid. Her eyes are blue, her cheeks are red, Mark, well, what I do say? Her eyes are blue, her cheeks are red, the wealth of her is on her head. No. Yep. Beh? Dov'è che registriamo? In che senso? In che senso, Vietnam? No. Ah, benvenuto, Cleo. Verbano Cusioso, no, quella è l'altra. Esatto. Siamo siamo senza governatore, le province le vogliono cancellare, non sappiamo nulla, siamo una regione senza identità. E soprattutto siamo? incorreggibili. No, siamo le persone non grate, le più persone non più grate a Cannes, al secondo e terzo posto. Ecco, ma parliamone, ma non grato, ma ha sbagliato o voleva proprio esprimere quel concetto? Cioè, grato o gradito? Io non è grato a Cannes? E per cosa? No, forse è il contrario, no. Persona non grata, quindi non è grata a qualcuna, vabbè, non lo so. È una grata. Ditecelo, se telefonate e fateci sapere. Per me cosa non ne è una pensate? Grata. Sì. Uno scolo. Sì. Allo scolo, sì, probabilmente sì. Allo scolo. Hai delle come news? Come faceva notare Federico Gironi, Lars von Trier somiglia sempre di più a Giuliano Ferrara. E io sono d'accordo, perché se lo guardate... Come grassezza? No, proprio come faccia, e poi sì, sta aumentando di peso. C'è ragione. Non so se è il suo vero account, Federico Gironi. Comunque, sì. Un Federico Gironi. No, ce ne sono tanti. Gli pseudo Gironi. Va bene, il morto del giorno, a parte quello di cui parliamo dopo, Shirley Temple, 85 anni. Finalmente! 1, 2, 3, qua, 5! Ho una fretta del diavolo! Ricordiamo, è a Riccioli d'Oro, se non sbaglio, il suo classicone. Non so, quello gli aviatori, sì, credo sia quello. Ma forse era Giubbe Rosse, allora. Non so, era lei che aveva vestito da aviatrice, andava all'aeroporto, appunto diceva una fretta del diavolo. Sì, e poi suonava il piano, ma quello lo faceva in ogni film, quindi non va. No, non era un'altra bambina che suonava, era la cugina, no? Ah sì, che dava fastidio, sì. Sì, che faceva le prove al piano, 1, 2, 3, 4, 5. Dobbiamo rivederlo. Siamo preparati anche su Shirley Temple, no? Sì, sì. Non trascuriamo nulla. Non è morta solo lei, è morto anche... La sorellastra di Julia Roberts, no, chi se ne frega? Sì, anche, la mezza sorella. Beh, sì. È morta per la stessa sorella. Ragione. No, sono andato subito a leggere, volevo sapere come sta l'altra metà sorella, magari sta bene. E no, è morto anche Gabriel Alex, 95 anni, era il regista del Pranzo di Babette. Az, esatto. Oscar nell'87, insomma, è morto, era... svedese, insomma era scandinavo, anche questo nome fa sembrare un ispanico, invece no, ci allora, dispiace. Visto che è sempre capitato tra una puntata e l'altra, era morto anche Jankso, Miklos Jankso, famoso regista ungherese, non mi ricordo più, sì, credo ungherese. Tutti lì. No, poi questi nomi sono ungari. Ma pensa che oggi è una giornata del diavolo proprio, come diceva Shirley Temple. Perché oggi, nel 48, chi moriva? Eisenstein. Oggi, chi moriva nell'82? Takashi Shimura. Oggi, chi moriva nel 76? Lee J. Cobb. Oggi, chi moriva? Ammazza tutti oggi. Nell'85, Henry Hathaway. E poi anche Whitney Houston nel 2012. Ammazza. E Lon Chaney nel... Ah no, questo non c'entra. No. Sono finiti, però tanti. Vabbè, ci grattiamo, noi ci grattiamo e andiamo avanti, perché... Abbiamo pure passato la giornata del ricordo. Sì. L'altra volta c'era la giornata della memoria e stavolta la giornata del ricordo, va bene. Fascisti? No. Sì, è che volevano, è come la tifoseria allo stadio, no? Cioè, abbiamo i giorni della memoria per i nazisti, allora anche per i comunisti, basta. Comunque, sì. Poi l'altra news, l'unica news, almeno per me, è che sono iniziate le riprese. Sì. Sì, a proposito dei nazisti, il 27 gennaio sono iniziate le riprese di Mia Madre. Non di Mia Madre, ma dell'ultimo film di Nanni Moretti che si intitola Mia Madre. Ha cambiato titolo perché prima si parlava di Margherita, Memoria di un uomo mascherato, una roba, no, Diario di un uomo, vabbè, comunque. E ci sarà tra gli attori, ovviamente, come al solito, Nanni Moretti, Margherita Buri, vabbè, non c'era, non è, e la sorpresa, io non lo sapevo, almeno John Turturro. Ah, ah. Che a quanto pare farà parte del cast, madonna, ah. Il cast internazionale. È proprio la giornata dei Coen. Eh sì, eh sì. E quindi era giusto commentare con... Ah no, facci Lucas! Ce l'hai tu una notizia? Sì, vado. Allora, prima di tutto, vi aggiorno ancora una volta su Star Wars, perché lo so, siete lì che fremete. Allora, la data forse ve l'avevo già detta, esce di sicuro a dicembre 2015. Boom, questa proprio segnata... Che devono stare dentro in questi tempi. E quindi eravamo rimasti che J.J. Abrams e Kasdan avevano dato la sceneggiatura e Lucas ha detto ma sì, dai, va bene, va bene. E allora le riprese iniziano, c'è già una data di inizio riprese e una pure di fine. Si inizia a metà maggio e si finisce a settembre, poi sarà montaggio, post-produzione, eccetera. Non, sarà il primo Star Wars che assisteremo con Twitter, eh? Che roba, vedremo le immagini dal set, ci arrabbieremo, ci gioiremo, chissà se vedremo dei set desertici come quelli storici di Star Wars o se sarà tutto finto un'altra volta, non lo so. Comunque questa era una. La seconda, calma ragazzi, avete visto quell'immagine che abbiamo messo? DiCaprio, DiCaprio, ha già vinto l'Oscar per miglior attore. La CNN ha fatto vedere questa immagine, gli è scappata proprio. Ma subito la CNN ha risposto, no, ma che state dicendo? Quelle targhette lì che si vedono, le fanno per tutti. E infatti, ma io pensavo fosse ovvio, ho visto il panico, ho detto, ma... scusate, deve essere pronto per qualsiasi attore vinca, quindi ce li hanno lì, le appiccicano sulla statuetta. Infatti c'è un momento speciale dopo che viene consegnato un Oscar, credo che sia più o meno fittizio, non lo so come dire, un Oscar standard in cui viene applicata la speciale targhetta, che è anche un bel momento, te lo fanno davanti all'attore, ci sono delle foto in quando lo vinse Anna Hathaway e gliel'hanno fatto lì e lei sta piangendo, quindi lo fanno per tutti, quindi ok. Tutti, anche Sorrentino, no, vabbè, quello lo vince lo stesso, tutti hanno già la loro targhetta, quando viene assegnato le altre targhette vengono buttate via, sì, è uno spreco? No, perché alla fine è oro, lo fondono e amen, se ne rifà un'altra l'anno dopo, però ecco, calma, c'è stato il panico davvero dappertutto, gente che già festeggiava, soprattutto a casa di Caprio, ma no, ancora niente. Ultimissima, a breve iniziano gli Oscar del film asiatici, insomma, gli Oscar asiatici, gli Asian Film Awards. C'è anche una notizia prima che in pratica il Festival di Tokyo, il Festival di, adesso me l'ho segnato, Busan e il Festival di Hong Kong si sarebbero uniti per dare manforte a questa cerimonia, non ho ben capito. Sembra che è nato un nuovo festival o dei nuovi awards, ma gli Asian Film Awards sono arrivati all'ottava edizione, esistevano già, è una news strana. Comunque, Mattatore è The Grandmaster, 11 nomination, praticamente quasi tutte le categorie se le prese. Secondo posto per nomination Snowpiercer, con 5, che è soprattutto, no, di sicuro regia e film, il resto non saprei. Ricordiamo che esce il 27 febbraio in Italia, quindi manca poco. Tra gli altri candidati, il 27 marzo sarà invece la cerimonia. Tra gli altri candidati, ecco, 6 candidati per il miglior film, c'è No Man's Land, che non saprei, The Grandmaster, come già detto, The Great Passage, The Lunchbox, quello indiano, ce lo ricordiamo, è strano. D'altronde però l'India è più è Asia. Snowpiercer, come già detto, e per la tua gioia Stray Dogs. Oh. Questi sono i sei candidati. Quindi è un festival non commerciale. No, direi di no. Poi alla fine... di mezzo, ecco, non sì. Sì, ma alla fine quando vincerà The Grandmaster tutti diranno, è commerciale. Mm-hmm. No, non lo è. Commerciale The Grandmaster, vabbè. E che dire, basta, quest'anno si terrà a Macao, 7 anni che si teneva a Hong Kong, il cambiamento. E da un festival all'altro, no, non era un festival, ma... Comunque anche gli Oscar quest'anno, non so se poi si è evoluta la cosa, ma non saranno più al Kodak Theater, o comunque non si chiamerà più così, perché la Kodak è fallita, no? Comunque non sarà più lo sponsor del teatro. L'ho scritto nella guida. Sì, l'hanno venduta, hanno venduto il nome, insomma. Però, sì. Però mi sembra non si sapesse ancora chi, almeno fino a qualche tempo fa, quando avevo letto io, non si sapeva proprio come sarebbe chiamato il teatro. Un attimo che vado a rileggere, mi sembra Civic Theater. No. Ma è lo stesso edificio con un nome diverso o è un altro di Sì, sì, rimane quello. Ma già dall'anno scorso. Solo... Già l'anno scorso, cioè la Kodak è fallita l'anno scorso e mi sembra che avesse già cambiato nome o comunque aveva già perso i diritti e si è chiamato per un'ultima volta così. Adesso vado a recuperare. Intanto dall'Asia c'è un altro festival in corso? Sì? Sì, in corso, non se ne parla meno, non so perché. Alla fine in realtà poi secondo molti è uno dei più... importanti, autorevoli, diciamo, festival, quello di Berlino, è iniziato il 6 febbraio, finirà il 16, insomma c'è parecchia roba in concorso, almeno per quanto mi riguarda molta poca sostanza, nel senso non ci sono film che conosco, tutte sorprese, quindi diciamo le recupereremo dopo, così al volo di importante in concorso vedo, va bene, The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson che è già stato proiettato, è già stato visto, sta piacendo a molti, se non a tutti, si parla di omaggio, comunque cinema debitore di registi come Lubitsch, Wilder o altri, insomma, Renoir anche, cinema molto mitteleuropeo, stanno parlando tutti in questi termini, quindi insomma, se c'era un buon motivo per aspettarlo... Ora ce ne sono due. Poi, di nomi grossi, c'è l'ultimo di Resné, che sta un po' dividendo, a me, Boire e Chanté. Insomma, Resné piace sempre, qualcuno è uscito in estasi, qualcuno ha detto "Nè", comincia a ripetersi, ma c'ha i suoi anni, non lo so. Poi c'è, se non sbaglio, anche un film di Linklater, Boyhood, in concorso. E anche qui c'è No Man's Land, che quindi passerà di nuovo per quel festival, e poi altri che non conosco, ripeto, farò una brutta figura, ma andatevi a guardare la lista, probabilmente qualche... ci sono molti asiatici. Cazzai? Eh sì, ma non è in concorso, quindi ci sarei arrivato. Questo era il concorso, sì, poi fuori concorso ci sono un paio di film interessanti, il primo discusso alla nausea, Nymphomaniac, però solo il volume 1, cosa strana, quindi lì vedranno solo la prima parte, mentre in realtà nel resto del mondo, quindi non in Italia, è già uscito nella versione intera, quindi volume 1 e volume 2 insieme, è già stato visto, io non mi baso tanto sui critici italiani che non sono critici, quindi ho seguito un po' un paio di persone che conosco su Facebook che sono lì, e una persona in particolare che non aveva particolari, oddio quante volte lo dico, non aveva odi verso Von Trier, insomma un fan del regista, se così si può dire, ne ha parlato molto male, però solo della prima parte ovviamente, e invece un altro ha detto, ha visto a Ginevra entrambe le parti, ha detto che insieme a lui è piaciuto molto, non so, ho letto anche qualche stralcio di recensione italiana e ad alcuni sta piacendo. Donzelli, innamorato. Sì, Donzelli, se non sbaglio anche Gironi da quelle parti, ha detto che non è male, però appunto loro credo abbiano visto la versione con il solo volume 1, vedremo insomma, sarebbe bello se parlasse solo del film, ma purtroppo Van Trier e anche la scimmietta Shia LaBeouf hanno dovuto fare il loro numero, vabbè... Non ho capito perché, arriva, come ha detto qualcuno che ho letto e non so chi sia, mi perdoni, arrivano prima le provocazioni di Von Trier che i suoi film. E vabbè, non è importante, ma che palle, no? C'è più viral marketing in un film del genere che in uno di Nolan. L'odio mi viene a prescindere, poi il film potrà anche piacervi, ma l'hanno pubblicizzato quasi come pornografia, quando poi il film magari è qualcos'altro, come stanno dicendo alcuni. Vabbè, comunque, non è stata la mazzata che ci si aspettava, sta piacendo, poi sta piacendo molto anche Stations of the Cross di Dietrich Brüggemann, che è un film in piani sequenza, a tema religioso. Anche qui mi sembra che ci siano parecchie recensioni positive. Invece molte negative su The Monuments Man di Clooney, che arriva la settimana prossima da noi, no? O questa già. Ecco, Giovedì già. già giovedì, e pare che sia una chiavica, comunque un filmettino proprio. Peccato, perché lui da regista, da produttore, è sempre abbastanza selettivo, e vabbè. Quindi ho già detto, e sì, poi chiudo con un film che, a questi che ho detto, sono semplicemente fuori concorso. Poi c'è, come hai già anticipato tu, nella sezione Panorama, l'ultimo di Zhai Mingliang, che sì, si doveva ritirare, ma non è detto che sia cambiata la situazione, semplicemente questo ce l'aveva già pronto, o pronto subito dopo, insomma. Comunque si intitola Journey to the West, ed è ambientato a Marsiglia, credo, e c'è Denis Lavant, l'attore feticcio di L'Oscar Axe. E sarà un film interessante. C'è il solito Lee Kancheck, insomma, non può mancare. Poi, sempre nel panorama, se può interessare, c'è anche l'ultimo di Gondry, Is the Man Who Stole Happy, che vabbè, Ah, ormai è ok. caduto in disgrazia dopo Mudo Indigo, quindi non lo so. Il documentario su Noam Chomsky, no? Ah, sì, è vero, sì, ne Sì. avevo parlato forse prima, sì, me l'ero completamente dimenticato. Sì, e poi niente, c'è un film di Dante Lam, The Demon Within, che insomma Dante Lam c'ha il suo. E basta, non vedo altri. No, non mi pare di vedere altri nomi seri. No, niente, sì, quindi insomma, qualche cosa da aspettare c'è. E quindi Bene. possiamo passare oltre alla posta del cuore, anche se in realtà poi sono una domanda, l'altra è più un film di cui non abbiamo parlato, quindi ne parliamo a parte. La domanda era di Marco De, che praticamente l'ha rivolta soprattutto a te, e non mi ricordo in che puntata, ah sì, quella su Scorsese, parlava di The Departed come un film, tu parlavi di The Departed come un film meno importante perché è un remake. Adesso non mi ricordo cosa hai detto, te lo ricorderai tu. Così. E lui ti dice, ma come? Un remake è obbligatoriamente inferiore all'opera principale precedente? Allora gli adattamenti non è la stessa cosa? E questa è la prima parte, rispondi. Sì, avevo detto che era meno importante, però avevo anche detto che la regia era di sicuro meglio, era molto più grezzo quello asiatico. Allora, sì. Io tendo a dare più importanza all'idea. Quindi, se una sceneggiatura non è originale ed è un film, insomma, se è un film che punta molto sull'idea, sulla trama, su una storia, mi dispiace molto quando scopro che, insomma, non è originale. Per carità, non è una cosa negativa. Però ecco, cos'era la domanda più importante? Parlava di romanzi, mi sembra. Semplicemente sì, citavo come esempio il fatto che una sceneggiatura non originale o comunque un remake è come l'adattamento di un romanzo, quindi una storia che c'è già. Sì, ecco, allora, bisogna fare la differenza. Parlava anche di remake, no? Ok, il remake, parliamo dello stesso media e quindi non ha senso. E il romanzo e il film sono due media diversi, quindi il discorso, ovvio, è più complicato. Ci sono romanzi che sono stati migliorati al cinema, molto, e altri che sono stati invece peggiorati. Però, ripeto, se parliamo solo di idea, per quello che io dicevo che il remake di Scorsese aveva poca importanza nella sua filmografia, perché non remake? Perché lì, cosa abbiamo parlato tutti, che era, soprattutto per l'originale, quanto era bella questa storia degli infiltrati uno dentro l'altro, questi, qua è tutto un raggiro, la fine, il finale. Però era qualcosa scritto già da qualcun altro, era un'idea già fatta da altri. Scorsese era migliorata. Quindi, non lo so, non me la sono preparata. No, io mi spiace, prediligo l'idea. L'idea è sempre meglio, l'originale è sempre meglio. Oh. Io vabbè, rispondo dicendo che non credo sia in generale complicato, dipende da film a film, io non mi ero espresso in questi termini, quindi dico semplicemente che secondo me non entra in gioco poi lo stile, la regia, anche come si inserisce un film, se è un remake all'interno della filmografia del regista. Se parliamo di un esordiente o di uno che a Hollywood fa un remake, è un discorso. Se lo fa Scorsese, insomma, mi pongo automaticamente al quesito, cioè perché lo ha fatto. Non è un registucolo, ma è un autore, quindi ci sarà un perché. Sì, anche a me piace l'idea originale, però insomma, mi lascio conquistare dalla storia se è raccontata in un certo modo. Quindi passo alla seconda parte della domanda, visto che mi sento più coinvolto. Diceva perché il film La cosa di Carpenter non viene mai confrontato con l'originale, mentre invece, come esempio, cita l'Halloween di Rob Zombie, che viene al contrario spesso paragonato. E qui credo che sia più che altro una questione anagrafica, ecco. Il remake di Carpenter è un classico ed è rimasto tale. Quindi le generazioni di adesso, che con l'horror vanno sempre d'accordo, lo riscoprono, neanche tutti, perché poi c'è stato il remake anche di questo. Però quello precedente, che ha una sua importanza storica, cinematografica, non l'hanno visto in molti. Quindi credo semplicemente il motivo sia questo. Ecco. Pochi hanno visto il film di Nibi, che poi vabbè non è tutto suo. Tutto qui. Invece quello di Zombie è il remake di un film molto più recente, che molti hanno scoperto, anche magari il meno appassionato, quindi credo sia solo questo il punto. E poi perché? Anche perché il film di Carpenter reinventa la storia dell'originale, è uno di quei remake che funzionano perché rilegge, perché riscopre la storia e ne fa qualcosa di diverso. Se non sbaglio poi qui va un po' più in direzione del racconto scritto da cui era tratta la storia, quindi comunque c'è un rileggere una storia in modo diverso. Quello di Zombie in un certo senso lo fa, perché per metà è un film nuovo. L'infanzia di Myers è inventata, insomma, è scritta da zero. Poi diventa un remake quasi shot by shot e vabbè. Quindi credo che in entrambi i casi sia, non dico ingiusto il confronto, però non per forza necessario. Poi, il motivo per cui non lo fanno gli altri, l'ho detto, secondo me è semplicemente perché l'originale, la cosa, non ha questo successo, non ha avuto questo valore di cult tale da provocare questi confronti per forza. Sono d'accordo. Tra l'altro tirerei in ballo anche la qualità. Come di Carpenter, non dico che fosse molto meglio dell'originale, ma l'originale era un po' grezzo, insomma. Quello di Zombie in confronto a quello di Carpenter. È sempre Carpenter? Sì. Sì. Insomma, lì ci siamo fatti molte domande su Zombie, perché ha fatto un filmaccio, e il secondo ancora peggio, poi per fortuna si è rinsavito con un altro film. E poi, ecco, perché uscire dal discorso La Cosa? Paragoniamo anche il nuovo La Cosa con quello di Carpenter. E sì, è praticamente lo stesso discorso, però ecco, invece di andare a parlare male del povero Rob Zombie, si poteva rimanere nell'ambito La Cosa e sì, vale lo stesso discorso. Quello che hai detto, che insomma uno era, parliamo ancora di un film in bianco e nero, colorato anche male, e visto da poca gente, poi, eccetera, hai già detto abbastanza. Sì, comunque, quella è la situazione. Pensiamo anche al recente Carry. O La Casa. Sì, La Casa già di più, perché comunque è più vicino cronologicamente, ma Carry ha qualche anno in più e qualcuno giustamente dice forse la generazione di oggi si ricorderà solo questo, perché Carry è un cult, però non ha avuto quel seguito che hanno altri film come La Cosa. La Cosa te lo consigliano quasi tutti. Carrie, per ragioni che mi sfuggono, meno. Quindi, insomma, la gente si ricorderà un po' di più. Poi volevo precisare, io, soprattutto col senno di poi, ho rivalutato in positivo entrambi gli Halloween di zombie. Quindi vi rimando al mio speciale che scrissi l'anno scorso, qui ne parlavo un pochino meglio. L'altra domanda era di Lucas, che ci chiedeva di dire qualcosa su Nebraska, giustamente, non ne avevamo potuto parlare perché non eravamo riusciti a vederlo, e siamo in due, viviamo nella stessa zona, quindi i film che vediamo sono gli stessi, non siamo un gruppo vasto che può compensare le lacune, purtroppo abbiamo i limiti del caso. Siamo Mike e Lewin, siamo in due, quindi. Esatto, sì, siamo un duo inseparabile, quindi i film li andiamo a vedere insieme, difficilmente parliamo di film che uno ha visto l'altro no, comunque, vabbè. Nebraska l'abbiamo recuperato recentemente, quindi sì, si può dire qualcosina. È piaciuto molto a entrambi, poi magari ognuno entrerà nello specifico. Per quanto mi riguarda è, credo, il miglior film di Alexander Payne, per cui non ho una grossa ammirazione. Mi era piaciuto Sideways, nonostante sia uno forse dei più criticati dei suoi, non so perché. Mi era piaciucchiato, non neanche tanto, io ecco, non ho amato molto. A proposito di Schmidt, avevo sopportato con piacere Paradiso Amaro, un po', insomma, rivalutato in negativo dopo. Credo che Nebraska sia il suo film migliore, più maturo stilisticamente. Poi la sceneggiatura, bene, sì, si può parlare sua, non sua, però a prescindere, comunque ha scelto di girare questo film, quindi mi piace che sia andato in una direzione più cinica, se vogliamo. I suoi personaggi sono sempre patetici, però di solito sono più patetici in senso negativo. Qui sono patetici in modo, almeno per me, più piacevole, ecco. È un film estremamente negativo, e anche in quel finale, che per certi versi si può considerare conciliante, non fa che ribadire la mediocrità di tutto quello che abbiamo visto, dei personaggi. Quindi credo sia un film un po' meno paraculo, e la paraculaggine era un po' quel problema che imputavo ai suoi altri film. Qui credo sia meno presente. Poi è bellissimo da vedere, un bellissimo bianco e nero, un bravissimo interprete, ed è un film molto divertente, amarissimo, come il film di cui parliamo dopo. Ed è bello questo riuscire a strappare la risata e la lacrima, tra virgolette, allo stesso tempo. Insomma, è stata una bella visione. Vai. È uno di quei film per cui faccio il tifo, nonostante credo che non vincerà nulla quest'anno. Sceneggiatura forse candidato, vabbè, comunque ce l'ha proprio dura quest'anno. Perché è un film simpatico, fa, appunto, è molto divertente, risate amare dall'inizio alla fine. Questo è molto alla Alexander Payne, che non ridi mai proprio de panza, è una risata un po' tra i denti, denti stretti, però, sì, però è insomma, con quel personaggio lì, come fai a non ridere? È meraviglioso, il vecchiaccio Bruce Dern, che anche lui purtroppo non avrà chance di vittoria, ma fa niente, è simpatico. Poveraccio, ricordiamo che gli hanno rubato anche il film di Tarantino. Non so se è il film migliore di Payne, perché a me, a proposito di Schmidt, era piaciuto molto, però forse è il più divertente, anche più di Sideways. Qua ho riso molto di gusto ai personaggi, forse più divertenti, più macchietta, ma che rimangono anche più in mente. E sì, la sceneggiatura non è sua, secondo me si vede molto, nonostante sia comunque un film alla Alexander Payne, proprio nel suo stile. Sembra quasi che lo sceneggiatore, che al momento non ce l'ho sotto mano, si è rifatto ai suoi film e poi gliel'ha portata a lui. Però è quasi un Alexander Payne migliorato, perché appunto manca quella paraculaggine che a volte era insostenibile, soprattutto nell'ultimo. Paradiso Amaro, o conosciuto anche come The Descent. No, è un'altra cosa. Sì, magari. Sì, alle Hawaii inspiegabilmente escono fuori dalla terra dei mostri, cioè. Sì, è certo che vogliono vendere il terreno. E insomma, sì, divertentissimo, e appunto faccio il tifo per lui e per Her. Gli altri sono i classici filmoni che hanno già stufato adesso. Vabbè, sì, quello di DiCaprio e di Scorsese, anche quello si fa il tifo. però questi sono i filmettini più divertenti a cui tieni di più. E direi che ci manca solo Filomena, che abbiamo già recuperato praticamente, Hair e 12 anni schiavo, che escono prima degli Oscar. Vabbè, quelli devono uscire al cinema. Sì, sì, ma dico, riescono a uscire. Sì, se non... Aspetta, intanto quando è l'Oscar? Che non seguo troppo, non 3 marzo o 4 marzo. Dunque, adesso guardiamo. Sa di no, almeno uno dei due no. Mi sembra che sì, uno sia un pochino più vicino o oltre. Dunque. Ma intanto io dico... Vai. Il pugno, volevo parlare del pugno che c'è... In Nebraska, quello che il figlio, il piccolo David, tira a un ex amico del padre. Ecco, quello non è mai successo in un film di Alexander Payne. Te lo aspetti tutto il tempo dai suoi personaggi, che appunto sono un po' paraculo, sono un po' mosci, sono molto realistici, ecco, non sono mai sopra, non sono cinematografici. E invece qui c'è quel pugno che finalmente qualcosa di vivo, perché Alexander Payne ha anche la faccia da moscio, è uno che invece qui si è visto. Non dico che adesso debba farsi scrivere tutto dagli altri, però gli ha fatto bene. La prima film che di cui non ha scritto anche la sceneggiatura, e gli ha fatto bene, secondo me. E volevo anche aggiungere che si chiama Dolby Theater adesso, così. La sceneggiatura è di Bob Nelson, che ha scritto solo questo film e un paio di puntate di serie TV. Quindi è un buon esordio, non male. Invece, per quanto riguarda i film, no, 12 anni schiavo esce il 20 febbraio, quindi lo vediamo. E invece lei, o Her, esce il 13 marzo, quindi se le date sono quelle, sfore. Ed è l'unico, perché tra quelli grossi, diciamo, sono usciti tutti in Italia. Preferito il contrario, Ma che poi non so se vincerà qualcosa, quindi probabilmente hanno pensato che ce frega, facciamolo uscire dopo, diamo priorità ad altro. No, era più che altro perché voglio vederlo, non ne posso più. Ma quello sì, infatti, no, degli Oscar, diciamo, in funzione dei film interessa meno, non voglio vederli, basta. Va bene. E quindi possiamo passare oltre, no? Non ci hanno chiesto altro che io non mi ricordo, no? No. E allora andiamo. Il super morto del giorno. Sì, il morto più morto di tutti. Il mortone. Sì, la salma. Quello che ormai comincia a puzzare. Sì, è vero, la voce che sentirete nella sigla. Ormai quanto... non mi ricordo neanche più la data. 2 febbraio. 2 febbraio. Philip Seymour Hoffman, trovato morto nel suo appartamento a New York per un'overdose. Adesso 46. Poi si sta parlando... 46 anni, sì. Sta parlando un po' dell'aspetto appunto morale della cosa. Non mi ricordo chi, Sorkin, aveva fatto un discorso un po' strano, ha riportato un loro discorso sul fatto della che questa cosa salverà 10 vite. Tra di loro si erano detti che se uno di loro dovesse morire per droga, sarebbe, insomma, fosse morto per droga, la gente avrebbe almeno avvertito il colpo e qualcuno forse avrebbe smesso, non si sarebbe avvicinato alla droga. Non so, non ho capito. Vabbè, era una cosa tra loro, l'ho voluta riportare. Comunque poi ho sentito che c'è stata anche un'indagine, insomma, è un caso nazionale. Poi c'è stato il pellegrinaggio degli attori. Giustamente, insomma, ormai è un colosso, giovanissimo, ma insomma, un curriculum invidiabilissimo e un grande attore, quindi si è avvertita molto a Hollywood come perdita. Ma quindi anche Sorkin si fa? Non vorrei essere denunciato per diffamazione, non ci giurerei perché l'ho letta oggi di sfuggita, però mi pare di ricordare che... No, forse Sorkin insomma, ha avuto trascorsi... Sorkin una volta disse a Hoffman che si sentiva fortunato perché era troppo impressionabile e non riusciva a sopportare gli aghi, quindi immagino di no. Magari si faceva d'altro, non so. Si parlava, qualcuno ha riportato, mi sembra fosse lui, comunque. Vabbè. Sì, poi dice, se uno di noi muore per un'overdose, probabilmente 10 persone rischiano di morire di overdose e non lo faranno. Vabbè, quindi forse era un discorso, insomma, slegato da... Vabbè, meglio così, voi 10, state attenti. No? Tra cui Shirley Temple. Sì, Shirley Temple, vabbè, quella pippava l'impossibile, no? Da piccola forse. Riguardiamo un po' alla sua filmografia. Ma posso fare una polemica? No, non la fare. Cosa? No, una era raccolgo solo l'astio un po' generato da chi non lo amava granché, ma non perché non lo odiava, ma semplicemente perché non lo conosceva. E sono due le cose, le domande che si pongono questi odiatori. Una: beh, ma è possibile che la polizia, solo perché è morto uno famoso, adesso va a fare le indagini tutto il tempo, eh? Se moriva un povero Cristo? Un po' è vero, però è anche vero che ne sono morti 3 o 4 già, per la stessa... dicono che sia uno spacciatore che sta mandando in giro questa droga mortale, un po' come nel film di Scorsese, Al di là della vita. Sì, un po' è vero, fa pensare. Se non moriva lui, quanti ne dovevano morire? Perché è strano come si sono mossi subito in grande quantità di uomini per trovare sto spacciatore. Fa anche impressione, perché era davvero amato. Non mi sarei mai aspettato che l'intero corpo di polizia si muoveva per lui. Questa era la prima, però appunto c'è già una risposta. Ne sono morti tanti, per più o meno si dice la stessa tipo di droga. Sì, appunto, è una questione più ampia, né? Lui, chiaramente il sì. Caso, il gossip, il caso attira l'attenzione, però era un'indagine un po' più ampia. E la seconda, che poi mi porta a parlare di un'altra cosa, che magari ne discutiamo dopo velocemente. Ma che questa, vabbè, è una polemica, insomma, l'hanno fatta anche su Giletti forse una volta. No, un altro che si drogava, insomma. Ma un uomo con una moglie e 2 figli si deve andare a drogare e lasciare una famiglia così senza gente? Davvero dobbiamo amare un tipo di persona del genere? C'è sempre questa scissione tra l'attore e la persona, tra l'artista e l'uomo. Che poi appunto mi porterà un'altra cosa, ma ne parliamo dopo. E come ci poniamo? Come fai a... è vero, come fai a drogarti quando hai due bambini piccoli? Però intanto bisogna vedere, insomma, il tipo di droga in questione, non più che per il piacere, che dove questa gente la usi soprattutto per tirare avanti. In particolare lui, tra Hollywood e Broadway, aveva dei ritmi particolari, non è che voglia giustificare la cosa. Volendola vedere in prospettiva, credo che è un po' come i musicisti di una volta. Certe droghe erano un modo per tirare avanti, poi diventano chiaramente una dipendenza. Sta alla persona, insomma, vincere questo tipo di cose. Vabbè, diciamo che non è che li lascia in povertà, ecco. Sembra una cosa cinica da dire, però ecco, è più che altro il dolore che provoca, e questo è, insomma, ci dovresti venire a patti prima. Poi c'è di peggio, tra virgolette, cioè penso anche a registi, mi viene in mente come si chiama, ma anche Bergman, ma non Bergman, l'altro, il tedesco, Fassbinder. È un altro beone violento, insomma, diciamo che certe cose non le si considera. Quando uno giudica l'arte, la vita è un'altra cosa. Si può certo esprimere un giudizio sull'uomo, quello sta, insomma, se interessa questo aspetto della persona, ci si intromette, tra virgolette, anche in quello. Sì, giustamente, secondo me, si deve scindere l'artista dall'uomo. Vabbè, poi l'altra cosa ne parliamo dopo, perché intanto parliamo di Hoffman. Quali ruoli e quali film sono piaciuti più di lui? Tutti, no? No, beh, sì. Ha fatto anche un po' di schifezze, nel senso che film magari meno memorabili, però lui... E alla fine arriva Polly, no? Così. Sì, che tra l'altro è uno dei film che vengono messi nei clip, nei videoclip, nelle foto, le cose memorabili. Molti l'hanno messo tra i migliori ruoli di Hoffman. Io non l'ho visto, non mi esprimo, però mi fa strano pensare che uno che ha fatto certo cinema, magari non quello d'autore europeo terribile, però fatto cinema tosto, è possibile che non ci fossero 4-5 film prima di Alla fine arriva Polly. No, forse per far vedere che riusciva a fare entrambe le cose, non lo so, bene entrambe le cose. Comunque molti critici, anche italiani, hanno detto The Master, questo e quest'altro, e alla fine arriva poi. Vabbè, meglio così. Ma io mi ricordo, stavo riguardando adesso la filmografia a partire da, non ho visto tutto quello che ha fatto, anche perché era molto attivo, me lo ricordo in, nel remake di Profumo di Donna, forse uno dei primissimi ruoli dove era ancora giovanissimo, tra virgolette, perché poi, poi c'era subito dopo Twister, un altro film terribile, quello su, sui cacciatori di tornado, non mi ricordo, c'era un cast di attoracci, comunque uno dei primi ruasi, Bill Paxton, Helen Hunt, sì. Era comunque un filmazzo davvero pessimo, per fortuna che non si ricorda, e poi bam, nel 97 vabbè, arriva il boom e il sodalizio con Paul Thomas Anderson, Boogie Nights. L'ha fatto già Sydney anche. Sì, è giusto, è vero, era anche in Sydney, sì. Sì, però è praticamente una comparsata, un giocatore sì. Di carte, non me lo ricordavo neanche più. Beh, anche in Boogie Nights era un personaggio molto divertente, ma di contorno, il microfonista, se non sbaglio. Sì, gay. Sì, era innamorato di, del protagonista. E comunque, insomma, è l'inizio poi della, della consacrazione, perché Paul Thomas Anderson lo ha adottato come adotta tutti i suoi attori, e in qualche modo poi da lì in poi ha fatto molto bel cinema, vediamo in ordine, ha fatto una comparsata sempre in Grande Lebowski, anche lì un bel personaggio, la risata me la ricorderò sempre, poi Happiness di Solons, che insomma anche meraviglioso, la sua scena storica, quella sì, sborrata, quel film difficile, poi lui è ancora giovane all'inizio e fa un film che in un certo senso a Hollywood non è il massimo della della promozione, invece tosto. Poi Magnolia, in cui ha già un ruolo un po' più considerevole per un film di Anderson, bello, insomma, forse il film di Anderson più discusso, lui è un bel personaggio, sempre un po' secondario come personaggio lo tiene, per cui infatti The Master è stato quello in cui gli ha dato quasi tutto il film. Poi Il Talento di Mr. Ripley, però... Lo faceva Matt Damon grasso, no? Sì, esatto, la controfigura di Matt Damon. Poi Quasi Famosi, che pare che non ho visto, Ubriaco d'Amore, anche io ancora di nuovo, Paul Thomas Anderson, film bellissimo, lui il un personaggio materassaio. Bellissimo. Il materassaio, sì, un protagonista di alcuni scambi di battute fantastici. Poi Red Dragon, il remake, comunque nuovo adattamento di romanzo di... come cacchio si chiama? Thomas Harris. Vabbè, anche lì fa un personaggio di merda, tra virgolette, nel senso, sempre il cattivo. Quella Butler era, no? Sì, il giornalista che fa una fine molto... Bello, è una bella scena, tutta la sequenza, anzi, l'interrogatorio, tra virgolette. Quella 25esima ora, uno dei migliori film di Spike Lee, e lui fa un bel personaggio anche lì, anche qui, molto ambiguo, non proprio positivo. Sì, anche qui secondario, ma ti rimane dentro, è un personaggio strano. Tutti si ricordano di... come si chiamava l'altro? Il broker di Wall Street, non mi ricordo il no, nome. No, il protagonista, lui, come si chiama? Edward Norton. Edward Norton, però il cappellino calato sempre in testa del cicciotto professore che qualcosa ha fatto o non ha fatto, insomma è lì. Te lo ricordi? Un bel personaggio, un'altra bella prova, anche se non sembra. Sì, tosto. Poi sì, finalmente... Ah no, prima c'è Ritorno a Cold Mountain, ma vabbè, alla fine arriva Polly. Poi un altro film che un po' l'ha consacrato, anzi definitivamente, Truman Capote, Sangue Freddo, bellissimo film, bravo lui, finalmente riconosciuto, forse non il suo ruolo migliore, ma comunque vabbè, insomma. Io gliel'avrei dato per The Master, ma lì era da non protagonista, quindi ok. Che qui un po' un ruolo particolare, lui ha una bella voce baritonale, invece Capote aveva una vocina molto fastidiosa, tra virgolette. E quindi è bello, si è calato in un personaggio diverso. Poi arriva un film strano, qualcuno dice, comunque è salvato proprio da lui, Mission Impossible 3. Ah, no. Salvato o no, è un film da dimenticare. Quella Famiglia Savage che non ho visto, però lo mettono tutti tra i migliori film. Ne hai saltato uno. Ah, Famiglia Savage, sì, carino. No, ne hai saltato uno dove fa un sesso con... chi era lei? Dio... Arrivo. Marisa Tomei in Before the Devil You Know You're Dead. Come Onore del padre e la madre. Ma è dopo, è nel 2007, sì. Stavo guardando su Wikipedia, lo mette prima, vabbè. IMDb 2005 Truman Capote, 2007 Onore del padre e la madre. Vabbè, storica, quella scena di sesso che ancora adesso Molti sono sconvolti, se è molto realistica. Sì, poi lei, due corpi diversi, lui in particolare, però beh, un attore che si è imposto con un fisico anti-hollywoodiano in un certo senso. Poi La guerra di Charlie Wilson, che non ho visto, Sinedo, che è New York, il film colosso che si schiaccia su se stesso. Anche qui protagonista, ruolo molto difficile, però insomma è forse da rivalutare il film e da rivalutare il suo, la sua interpretazione. Forse è rimasto schiacciato anche lui lì, perché megalomane Kaufman, lì l'ha fatta forse fuori dal vaso. Beh, insomma, un film, sì, insomma, non è rimasto, non se lo ricorda quasi nessuno, l'hanno visto in pochi, è un ruolo anche quindi dimenticato. E subito dopo però si è rimesso in vista con Il dubbio, anche questo forse uno dei suoi ruoli più belli, un bellissimo film, poi stanno ripassando su Sky in questi giorni. Una meraviglia, Il dubbio. Sì, molto... E poi è un po' più sottile di quello che si ricorda, che, insomma, se ne parla, ma insomma, una bella sceneggiatura. Oltre che due grandi interpretazioni. Poi I Love Radio Rock, che io non ho visto. Carino, divertente, il suo personaggio fuori dalle righe, molto simpatico. Niente di che il film. Curtis ne ha fatti di meglio, secondo me. Mm-hmm. Poi il film da regista che devo ancora vedere, Jack Goes Boating, attore e regista. Detto tutti che comunque lo rappresenta bene. Poi Le Idi di Marzo, un bellissimo film anche questo. Molto classico, lui fa un bellissimo personaggio, tanto per cambiare un po' stronzo. Poi L'arte di vincere, altro bel pezzo di sceneggiatura, e anche qui fa un personaggio molto detestabile, però insomma bello, il fisico giusto per l'allenatore di baseball che sputacchia tabacco. E poi finalmente The Master, vabbè, non ne parlo più perché mi odierete, però la sua migliore interpretazione, credo, senza dubbio. Poi ha fatto altro dopo, ma... Sì, purtroppo Hunger Games, vabbè. Sì, una fragile armonia, sì, poi due Hunger Games. E quello che c'è da aspettare, me lo credo, almeno per quanto mi riguarda, l'adattamento di un romanzo di Le Carré. Ah, con Rachel McAdams, sì. Sì, A Most Wanted Man. Forse l'ultimo Le Carré, proprio che ha fatto. Eh no, perché c'è Hunger Games, la seconda parte, che è ancora in fase di riprese, quindi... Sarà il classico film e diranno, ah, è morto, non l'ha finito, quindi sarà anche la spinta pubblicitaria, purtroppo. Preferisco ricordarlo, spero sarà bello con questo adattamento, visto che Le Carré al cinema porta sempre fortuna, quasi tutti i suoi adattamenti sono bellissimi. E, vediamo di ricordarlo per quello. Sì, quando è morto ho immaginato... il suo amico sceneggiatore Katz o Kanz, una cosa del genere, adesso vabbè, non ha importanza, che doveva andare a casa sua a vedere una partita di basket, e lui era un grandissimo tifoso dei Knicks, quindi immagino fossero i Knicks grandissimo anche per questo, e, insomma, ho immaginato questo amico che apre la porta e lo ritrova morto in bagno, tutto insomma con la camicia aperta eccetera. Mi è venuto in mente subito quando a Venezia ritirò il premio e poi lo fece anche cadere, una cosa simpatica, al post per Paul Thomas Anderson, no? Perché lui era già partito. Sì, era tornato lui apposta da Toronto per... E se te lo ricordi, dicevamo tutti, eccolo, è arrivato con la camicia fuori dai pantaloni, tutto disordinato, con gli occhi rossi. Beh, lì si dava un po' la colpa al volo. Sì, sì, era proprio... certamente, però ti viene da unire le cose, non è che non so, era un problema vecchio, credo, quindi c'è sempre stato dentro, quel che capisco. Sì, viene un parallelo come se fosse un amico che avevi già visto in quelle condizioni e dici non ho fatto niente per aiutarlo. No, è stupido, però mi è subito venuta in mente quell'immagine. Sì, probabilmente lì era il jet lag, perché ha fatto avanti e indietro in due giorni, anzi in 24 ore. Però niente, mi è venuta in mente quella cosa strana. Vabbè, a me è venuto in mente John Belushi, un altro omaccione, insomma, ha avuto un problema simile, ha fatto una fine simile. E vabbè, che devi fare? Però anche lì, ripensando proprio a quello, sai, dover volare dal Canada a Venezia per ritirare un premio, c'è uno stile di vita che credo che in un modo o nell'altro ti uccide. Quindi probabilmente era un rifugio alla droga, non voglio giustificare, ripeto, però ecco, una vita difficile. Io mi ricordo quando sono andato a New York, di fronte al mio hotel, un hotelaccio terribile, l'Edison Hotel, quello in cui hanno girato una scena del Padrino, e comunque è di fronte a un teatro in cui davano Morte di un commesso viaggiatore, che è una delle cose per cui ha ricordato Hoffman, perché lo ha sempre, Hoffman, Philip Seymour Hoffman, perché l'ha fatto anche l'altro Hoffman, è uno dei ruoli per cui è famoso, quindi faceva molto Broadway, che Matt Hoffman, per certi versi è piuttosto del cinema, perché tante repliche per tanto tempo, poi finisci lì e vai sul set, poi appunto abbiamo visto, stava girando tre film insieme adesso, perché la seconda parte di Hunger Games, una serie TV, l'altro Hunger Games, quello di Le Carré, anzi un altro, God's Pocket, che non so cosa sia, e in un anno ha fatto quattro ruoli, cinque anzi, per cui non lo so, forse anche questo è un modo sbagliato di fare del male al proprio corpo, in un certo senso, però si è dato all'arte, ecco, preferisco vederla così. E possiamo chiudere, o sì. Poi altro... Ecco, per ritornare su quello che ti avevo accennato, prima di, visto che lui è morto dalle parti di Greenwich Village, prima di andare a parlare dei registi e del film che è ambientato da quelle parti, sempre sulla questione uomo-artista, non so se in questi giorni hai sentito la polemica che è nata durante il Super Bowl, perché l'articolo è uscito in quel periodo, in quelle ore, di Dylan Farrow, che avrebbe accusato Woody Allen di molestie sessuali. Insomma, da piccola la bambina è stata molestata più volte dal padre. Ecco, è venuto fuori di tutto. Mia Farrow ha scritto una lettera anche lei al New York Post, se non sbaglio, in cui ha detto la sua. Dylan Farrow ha continuato a sostenere queste accuse. Hanno risposto gli avvocati di Allen, ha risposto Allen ultimamente. Moses Farrow, l'altro figlio, ha difeso Woody. È venuta fuori l'ennesima polemica, quasi ciclica. Ogni tanto viene fuori la pedofilia di Woody Allen. Ecco, noi amiamo Woody Allen, no? E si potrebbe fare lo stesso discorso di Polanski, se non fosse che Polanski ha ammesso tutto, ha chiesto scusa, eccetera, e Woody Allen si è sempre detto innocente, e finora non ci sono prove a riguardo. Però anche se ci fossero, come ti poni davanti a un Allen pedofilo? Cioè, è difficile, eh? La pedofilia è una delle cose più orribili che esistono, e Woody Allen è uno dei tuoi autori preferiti. Come si conciliano le cose? Non so, me lo sono chiesto tanto spesso, perché te lo menano, stanno menando questa storia ogni giorno, quasi viene a credere. Quindi te lo menano, quindi ha molestato anche te. Sì, devo solo rompere un po' la cioè, è un discorso in generale, appunto, anche con Hoffman, con Polanski. Come ti poni, ma in questo caso più specifico, con Allen, se viene fuori? O tu credi a Woody Allen? Ecco, mettiamola. No, questo, cioè, non è una cosa che non mi sono proprio posto. Non ho, come faccio a credergli? Non lo conosco, proprio perché, come dicevo prima, io conosco l'artista e continuo a guardare l'artista. L'uomo non lo conosco, non lo conosce nessuno, se non la famiglia, quindi... potrei dire cinicamente chi se ne frega, nel senso che non sta a me, sta alla giustizia, sta a chi lo conosce davvero, ai suoi intimi, decidere, eventualmente giudicare. Se io posso giudicare se dopo, se eventualmente, ipoteticamente venisse condannato, comunque scoperto, e potrei ovviamente esprimere disgusto per l'uomo, ma i film erano un'altra cosa, li ho giudicati come film, non come opera di un padre affettuoso. Quindi credo, insomma, che avrò già risposto, nel senso, sono due cose distinte. Mi piacciono film di tante altre persone che probabilmente hanno fatto cose orribili, anche Polanski stesso, ma cose che non sappiamo, adesso non mi vengono in mente, però ogni tanto quando vengono fuori queste cose mi torna in mente un regista di cui avevo sentito, anche personaggi storici, ma anche i politici, è la stessa cosa. allora il politico ha un ruolo pubblico e il suo lavoro è quello, il regista, l'artista, poi è diverso anche il caso, ecco, sì, viene in mente subito Polanski perché la situazione è simile, un minore, una molestia sessuale, origini diciamo simili, però Polanski non è, anche qui sembra sempre una giustificazione, però è una persona con un passato particolare, diciamo che uscire non disturbati, comunque non con qualche complesso da quella, dalla vita che ha avuto Polanski, è sempre difficile. Allen è un privilegiato, quindi mi darebbe più fastidio a livello umano, ecco, di un Polanski che non solo ha i soprattutto suoi con i propri figli, sì, chiaramente è più drammatico ancora, se possibile, ma anche no, mettendo vicino due crimini simili, che comunque di crimini si tratta, non lo so, sembra stupido, però è come quando prendi un serial killer e dici, ok, ha commesso delle cose terribili, però per certi versi ha una mente deviata, perché? Perché magari gli è successo questo, questo e quello, magari sto dicendo delle cazzate, chiedo scusa, però ecco, Polanski, non so, rivedendo i film biografici, rivedendo la sua vita, non so, non dico che sia giusto quello che ha fatto, assolutamente, però che abbia una reazione innaturale, che abbia un comportamento in un certo momento della sua vita ingiustificabile, lo capisco già di più di un Woody Allen che, ripeto, ha fatto una bella vita, non è stato in un ghetto, non ha perso la moglie assassinata e tutte queste cose, non so, era una parentesi che volevo aprire, non c'entra nulla. Sì, vabbè, c'è anche da dire che Mia Farrow si era legata al dito da una vita, soprattutto per il fatto dell'altra figlia adottata, adesso non mi viene, sì, che poi lui ha sposato, con cui non ha mai avuto relazioni comunque prima della maggiore età, insomma, lì non c'è mai stata pedofilia. È una cosa forse messa in piedi ed è orchestrata, soprattutto la versione della figlia Dylan da Mia Farrow. Però al di là di questo, se insomma è difficile scindere un artista che ami, perché il politico o qualsiasi altra persona non l'ami, invece in questo caso un artista lo ami perché ti ha dato tante gioie, Allen quante ce ne ha date, con l'uomo che potrebbe essere un criminale, appunto. Vabbè, è difficile, ovvio, l'artista lo amiamo, l'uomo lo ameremo meno, nel caso sarà giudicato colpevole, per ora è innocente, anche la legge, anche i periti vari hanno detto che è innocente, quindi vabbè, chiusa qui, era solo per... Poi, interessante Mia Farrow, il suo ruolo, cioè qualsiasi cosa venga fuori, se lei era consapevole, se lei è una persona che si dedica alla, cioè è un attivista, è una di quelle che si schierano, che si scagliano contro certe cose, non ne verrebbe bene per fuori per niente. In generale una madre che è consapevole di una cosa del genere non fa nulla, insomma, non ne esce bene mai, però lei in particolare, ma mi pare di capire che comunque lei abbia espresso dubbi, nel senso, nei suoi interventi pubblici ha spiegato che comunque non è consapevole, non si è schierata, ecco. Non saprei, quindi non so, e per chi fa quella vita, quindi chi ha modo di tenere nascoste certe cose, magari è diverso, non so, è sicuramente sgradevole a prescindere, comunque andrà, poi se viene fuori che è tutta una montatura, tra virgolette, della figlia, però vorrà dire che questa persona qualche problema ce l'ha, perché se monti un caso del genere, anche a livello, a parte quello mediatico, ma e con monetario, ecco, cosa te ne viene, cioè non hai un risarcimento, quindi se lo fai perché è vero è chiaramente un modo di cercare giustizia, se non è vero, qualora dovesse dimostrarsi che non è vero, sarebbe interessante capire cosa ha spinto questa donna ormai a fare quello che sta facendo. No. Cioè, sempre difficile poi esporsi, perché comunque un figlio che dice una cosa del genere, la tendenza naturale è schierarsi con il figlio, per cui non so, vedremo come si evolve nei prossimi mesi ormai. Dal lato economico, uno dei figli di Mia Farrow, se non sbaglio quello che è in politica, in democratico, non mi ricordo come si chiama, assomiglia molto a Frank Sinatra, cioè il compagno precedente di Mia Farrow, nonostante si dica, anzi è scritto che è figlio di Woody Allen. Ed ecco, quando hanno divorziato lui ha dovuto pagare molti alimenti, perché appunto il divorzio e il figlio eccetera, però questo figlio assomiglia un po' troppo all'ex marito, vabbè. Allen nell'ultima lettera lo diceva un po' così, diceva vabbè, io ho sempre pagato gli alimenti, vabbè, questa è un'altra cosa, visto che si parlava di finanziario. Basta qui, basta, che sì, siamo depressi abbastanza. Che amarezza, sono già un'ora, abbiamo fatto un'ora. Vabbè, passiamo al film, quindi l'altro facciamo dopo allora? Sì, sì. Va bene, quindi andiamo subito a I fratelli Coen. Non so, io ho preparato le solite curiosità, così, per rompere il ghiaccio su di loro. Magari certe cose le conoscete, certe cose meno vediamo. Visto che abbiamo parlato della casa prima, per puro caso, e i fratelli Coen da dove hanno iniziato? È proprio dalla casa di Raimi, erano assistenti sul set di Sam Raimi, poi diventarono anche suoi sceneggiatori per il film I due criminali più pazzi del mondo, uno dei Raimi meno conosciuti, ma forse il più divertente, anche se è una mezza cazzata, ecco. E nell'85 nel Bronx vivevano tutti assieme i due fratelli Coen, Frances McDormand, futura moglie di Joel, se non sbaglio, dei due, Sam Raimi e Holly Hunter, che è una delle tue preferite, o sbaglio? Sì, sì. Insomma, vivevano tutti assieme. Poi Ethan Coen, quando andava alla Princeton University, una volta consegnò un compito in ritardo, ecco, segnatevelo, che magari potete usarla anche voi questa scusa, e disse davanti al professore che aveva perso un braccio a caccia, nonostante ce li avesse entrambi il braccio. Era già un genio. Sì, a Princeton, non so, all'ITIS, ha detto una cosa del genere. E prima di darsi alla regia, quando iniziò col bellissimo primo film, poi ne parleremo, che infatti non mi viene, First Blood, no. Blood Simple. È Rambo. Rambo First Blood. È loro. Rambo Blood Simple. Faceva il commesso da Macy's, credo proprio a New York. Poi Lady Killers nel 2004 è diventato il loro primo film in cui sono entrambi registi, perché fino a quel momento Joel figurava come regista e Ethan come produttore. Alla fine entrambi erano registi, però avevano deciso di fare così. Dicevamo sempre di David O. Russell, che è il regista degli attori, che tutti con lui vanno alla nomination. E beh, i Coen, vabbè, che hanno fatto più film, però 8 loro attori sono andati agli Oscar. 2 hanno vinto, la McDormand e Javier Bardem, e altri 6 sono rimasti nominati. Però, insomma, numeri di un certo peso. Poi non ammettono l'improvvisazione. Quando un attore improvvisa sul set, loro dicono: ah, bravissimo, ma sei veramente bravo. Adesso rifalla come è scritta, però non gli va bene. Il loro montatore storico è Roderick James, ha sempre lavorato con loro. In realtà sono proprio loro, è uno pseudonimo che usano da una vita. Sarebbe bello vederli ritirare un Oscar per il montaggio e salgono di nuovo loro. No, non possono, deve salire lui. Sì. Per motivi fiscali, non lo so. Sono i primi al mondo ad aver vinto per 3 volte il premio per la miglior regia a Cannes, cioè nessuno è mai arrivato al loro livello. Pazzesco, ma sono i primi al mondo. Nonostante gli Oscar continuino a snobbarli, ma anche questo ne parleremo. E poi, segnatevi, i loro film preferiti e che li hanno più influenzati. Sono più che altro commedie anni 50 e 60, e sono abbastanza sconosciute. Una è Boing Boing, scritto come l'aereo, Boing. Il letto racconta I guai di papà e Il visone sulla pelle, che è già più famoso. Mentre il loro film preferito in assoluto è I cannoni di Navarone. Oh. È strano, è così. Uno sguardo invece al futuro, futuro prossimo, il 15 aprile inizia la serie TV di Fargo. Già, sì, vero che se ne parlava. Due episodi sono già scritti, uno appunto ha già la data, non so quanti saranno, comunque andate su IMDb, sono già tutti gli attori, e loro hanno scritto i primi due episodi, non so quanti altri, o quanti altri ne scriveranno, come andrà, però per ora è così. Meno prossimo, Unbroken, hanno scritto questa sceneggiatura che, se non sbaglio, parla di un atleta che venne rapito da dei giapponesi. Aspetta che vado a leggere, perché... tu pensi, hanno scritto la sceneggiatura per un grande regista? Per qual è questo fortunato che ha potuto avere una sceneggiatura dei Coen? Angelina Jolie. Beh, ma hanno già scritto anche Gambit, che è uscito 2 anni fa, hanno scritto loro, diretto da Michael Hoffman, quello che non abbiamo visto ma era passato al cinema, l'hanno scritto loro. Ah, vabbè. Con Colin Firth, Cameron Diaz. Però adesso dici, sono sempre più bravi per scrivere, Angelina Jolie, che ricordiamo è al suo secondo film, e sarà la storia di questo Luis Zamperini, che era un corridore olimpico e venne preso prigioniero dai giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Vabbè, sembra interessante comunque. E ancora più in là, se avete letto l'intervista di Sorrentino, purtroppo, ai Coen, rivelano che Turturro continua a rompergli le balle a loro di fare un grande Lebowski 2, incentrato più su Santana, ovviamente, Jesus. Però loro hanno sempre a proposito di molestie sui minori. Ecco, esatto. Però loro hanno sempre detto no, John, no, assolutamente no. Però si sono lasciati scappare che non escludono un Barton Fink 2, ma quello, sempre con Turturro, quello glielo possono concedere. Lebowski no, mai più, finito. E boom, adesso se vogliamo parlare della loro filmografia, come? Hai delle domande? Vogliamo partire con degli argomenti? Che ne so io. Ad esempio, quali Coen ti piacciono di più? Senza parlare proprio poi dei film, che magari lì facciamo la top 3. I Coen più sul lato criminale, che poi è sempre un crimine divertente, o le commedie vere e proprie? Quelle più risata spinta e che ci frega. Cioè, più direi la seconda. O più... Vai. Non so, non ci ho mai pensato, perché non so, è quasi divisa in due anche cronologicamente. Da un certo punto in poi hanno fatto molte più commedie o molti film che con il crimine vero e proprio hanno meno a che fare, però poi ci sono quelli Lady Killers e Non è un paese per vecchi. Non so, no, non saprei scegliere, a me piace tutto, persino il Grinta, e poi potremmo parlare anche di questo, visto che è il film più odiato dei due. Sì. Ecco, un'altra domanda. Nella tua sceneggiatura, famosa. Che ne sai, non l'ha letta nessuno. nella tua sceneggiatura del film porno, no. Nella tua recensione e anche il commento a caldo, fuori dalla visione del film, hai definito l'ultimo dei Coen un film minore, un minore dei Coen. Io ci stavo pensando a questa cosa, ma quale dei Coen si può definire un film maggiore invece? Ma anche minore, a me viene difficile, perché poi ho spiegato minore in che senso. No, aspetta. Minore come lo si intende, cioè film così tanto per... No, aspetta, perché guardando la loro filmografia dici... Beh, prima di tutto sono tutti belli, non ne vedo uno brutto. Però li guardi, li scorri e dici... Uno è quasi un esperimento di genere. Uno è una versione stralunata di un romanzo... No, come si dice? L'Odissea, un romanzo, sì. Beh, un poema. Un poema, esatto. Un paio sono delle commediacce, uno è anche un remake, cioè commediacce per modo di dire, poi sono molto divertenti. Uno è un remake, uno è un remake che è venuto male, ma male per modo di dire. Molti sono film minori come distribuzione, come fama proprio, dei Coen non dicono mai quelli, eppure sono molto belli. Alla fine quasi i loro maggiori to cure sono Fargo, Il Grande dei Boschi e come si chiama? Non è un paese per vecchi perché ha vinto e perché comunque ha avuto, è stato amato da tutti. non è una critica, però sembra che loro fanno sempre dei film a basso profilo. Tam, ti faccio lì il filmetto, non gli do neanche tanto peso, poi fanno dei capolavori. Però mi piace questo loro modo di fare. Sono quasi tutti film minori. Sì, sono silenziosi. Sì, anche quando fanno un film da Oscar come Non è un paese per vecchi, non è per niente il classico film epocale. Poi vabbè, insomma, fare un film del genere e renderlo memorabile quando vicino c'era Il Petroliere, già questo è un traguardo pazzesco. Sì. Diciamo che minori, nel senso che a cui do meno peso io, ma per ragioni che non saprei neanche spiegare, sono proprio quelle commedie, cioè Prima ti sposo, poi ti rovino, Lady Killers e Mr. Hula Hoop, che però cioè, mi fa strano anche definirli minori perché sono belli. Sì, infatti non è una critica, non li vogliamo sminuire, però come... non so, come presentazione al pubblico non ce n'è mai uno che te l'hanno sbandierato. Sì, forse solo Non è un paese per vecchi, il grandi Coen. Per il resto Burn After Reading, nonostante abbia degli attoroni dentro, cioè attori da botteghino, e ha fatto botteghino come film, sì, è uscito, è piaciuto a molti, ma è lì. A Serious Man non puoi definirlo un grande film, perché a parte che non l'hanno capito molti, roba ebraica, boh, vabbè. Altri sono proprio film che è strano, mi piace moltissimo questa cosa. Sì, non sono mai ambiziosi, nel senso come lo si intende di solito. Sì, veniamo da Scorsese, che ogni film è un evento. Sì, certo. Ma non, sì, non lo rendono tale. Quest'ultimo credo sia bello anche per questo. L'hanno fatto uscire praticamente in modo che non fosse candidabile o che non, insomma, hanno manifestato disinteresse a non essere candidati in un certo senso. È un film che hanno voluto fare, l'hanno fatto e chi se ne frega. Ed è sempre così. Credo che Non è un paese per vecchi sia stato un caso particolare. Ma in generale l'impressione è che anche quando fanno il film minore, come lo tenevo prima, quei film che ho citato, siano comunque dei film che fanno per divertirsi. E quindi ci infilo dentro anche il Grinta, che è un film che secondo me hanno voluto fare, e boh, quindi non gli si può dire nulla neanche in quel caso, secondo me. C'è proprio un atteggiamento verso il cinema diverso, pur essendo autori classici in un certo senso, per Hollywood, per il cinema americano, non si pongono come tali, è un bel approccio così, defilato al cinema. Sì, unico quasi, da quella parte del mondo. Come vuoi fare i top? O li, ne parliamo di ognuno? È difficile fare i top. Sì, infatti, andiamo per ordine, anche se sì, vabbè, chi se ne frega, tanto ormai le 2 ore le facciamo, vabbè. Sì, vabbè. Sì, quindi andiamo dall'inizio, Sangue Facile, viene subito in mente il remake di Imu, ti ricordi? Sì, sì. Carino, è uno strano remake. A proposito di remake, visto che loro li fanno, gliel'hanno fatto in Asia, è un evento stranissimo, è comunque un cult. Dicevi, tra i più famosi loro, non c'è, nel senso si tende a includere Fargo, Il Grande dei Boschi, è vero, questo non lo includono, però è un esordio pazzesco, ha fatto scuola a suo modo, ha già definito, cioè c'era già dentro tutto. Esatto. Era un po' più cupo dei film dopo. Specie che quello dopo è una commedia, va bene. Però era già, sembrano insomma un po' più cinici, come poi sono diventati nell'ultimo periodo invece. Sì, è andato proprio a rileggere una mia vecchia recensione, ancora del forum, recensione, commento. E in effetti parte magari un po', insomma è un'opera prima, e parte un po' lenta, però poi c'è davvero dentro tutto quello che poi avrebbero fatto, è puro Coen fin dal primo film. È vero che è più scuro, è più oscuro, anzi, è un Fargo molto più spaventoso. E quello meno ironico, forse, sì. Ancora meno di L'uomo che non c'era. Di Wynne Davis, anche, sì, L'uomo che non c'era. perché non mi ricordo vagamente, perché è un po' che l'ho visto, però ironia quasi a zero. Ci sono dei personaggi che sono sempre coeniani, ormai c'è l'aggettivo, quindi non stiamo neanche a spiegarlo, però non c'è quell'ironia che poi, vabbè, ripeto, del film dopo, che è tutt'altro genere. No, e poi a parte questo, tecnicamente già è immenso, già il primo film è impressionante. Un finale magnifico, lo scontro, il duello, tra virgolette, alla fine, mi ricordo la mano contro il muro, è davvero tosto, sì. Poi la regia sempre di altissimo livello, sì, esordire così, insomma, non è da tutti. Ecco che poi, tutti dicono grandissimi sceneggiatori e dialoghisti soprattutto, ma registicamente guarda che non ce ne sono molti al loro livello. È una cosa che si dice in tutto, sì, non... si tende più a trattarli da sceneggiatori, che per carità sono bravissimi anche in quello, ma la regia, sono dei film, anche l'ultimo ammazza, poi ne parliamo, la scena in bagno kubrickiana l'hanno definita. Sì, è molto simmetrico in quei momenti. Poi c'è una bella foto di lui che entra e c'è il corpo, e c'è proprio un taglio simmetrico della scena, molto bello. Sì, sono un po' come Tarantino, ti ricorda spesso il dialogo, la scrittura, la scena, e poi però devi che sanno anche girare alla grande. Da questo punto di vista sono molto simili. Passiamo a quello dopo. Sì, Arizona Junior. Acceleriamo un po'. Arizona Junior è un certo senso tra i miei preferiti, perché c'è Holly Hunter, vabbè, quegli occhi che adoro, e poi qui è divertentissima. C'è Nicolas Cage in uno dei ruoli belli, quindi anche per questo è degno di memoria. Poi è geniale, c'è già tutta quell'ironia quasi cartunesca, il cattivo sulla moto. Era, poi vabbè, la sequenza della fuga delle rapine nei supermercati credo sia memorabile. Si cita poco, ma Cage che corre dal supermercato per strada con la polizia alle spalle, è una scena divertentissima, una delle più belle del loro cinema. D'accordo, d'accordissimo. C'è già John Goodman. Sì, poi John Goodman, insomma, in ogni film suo, dei Coen, è sempre memorabile. L'evasione, loro che escono dal fango, l'urlo, sembra, sì, ricorda Shawshank Redemption, sì, però esatto. Più grottesco, sì. Bello, bello. Crocevia della morte l'ho appena rivisto e mi sembra che a te piaccia molto. Io invece... Sì, ma io invece lo metto tra quelli che mi è piaciuto di meno. Ripeto, nessuno è brutto, nessuno va sotto, diciamo, il 6 di sufficienza. Anch'io, nel senso, non è tra quelli che metto tra i miei preferiti, quindi sono d'accordo. Mi è piaciuto, va bene, ma non... Credo che sia uno dei migliori, di quelli scritti meglio, è una sceneggiatura bomba. Però, non so, forse non mi piace Gabriel Byrne come attore, ma quello che forse me lo fa piacere meno è che forse il suo personaggio è quello meno coeniano. Tutti i personaggi dei Coen sono stupidi, cioè sono dei finti dritti. Lui invece manipola tutti, le prende dall'inizio alla fine, perché non c'è un momento in cui non lo scazzottano, però è troppo furbo, è quasi l'opposto del tipico Coen, del personaggio Coen. Non lo so. Sì, non lo metterei tra gli esempi del loro scrivere, sì, è vero. Anche questo registicamente fa impressione. Sì, un bel omaggio, modo anche un esponente, perché più che omaggio poi funziona già da solo. Poi il finale, il cappello, vabbè. Sì, il cappello per tutto il film è importantissimo. C'è già Turturro che poi torna in... In Barton Fink, che questo è tra i miei preferitissimi, credo anche il tuo. Sì. È forse quello più folle dei Coen, è un crescendo di follia, e qui c'è il personaggio forse più bello di Goodman, persino più di Walter Sobchak, testa matta. Non lo so, però è bellissimo. È Charlie testa matta Matt, qualcosa del genere, e quando non ti prendono in giro per la stazza e per le tue malattie mentali, bellissimo. Heil Hitler. Sì. E come fai a non amarlo? Ma poi qui era ancora giovane, ancora sì, grosso, ma c'aveva quel viso quasi da bambino, qui in un ruolo così è magnifico. Sempre violento nei loro film. Sì, fastidioso e violento. E sì, questo lo metto, se dobbiamo fare con una top 3, questo è nella top 3. Bellissimo. Era piaciuto un sacco. Anche perché nell'epoca e nell'area geografica che io amo, la Hollywood degli anni 40, uno scrittore poi col blocco, uno scrittore che si vanta di essere così amico e vicino ai poveri, alla gente normale, e poi non le lascia mai parlare, non sta mai con la gente normale, come Charlie testa matta. Per questo giustamente poi molti lo mettono vicino all'ultimo film, Inside Llewyn Davis, c'è molto in comune, non solo per quel finale, che giustamente sì, qualche analogia c'è, anzi molte, ma il film nel suo insieme, ad essere quasi speculare, poi ne riparliamo, però c'è, cioè, quel tipo di... viene meno l'ironia di Barton Fink, che comunque è molta, è meno visionario di Barton Fink, ma è, insomma, è una prosecuzione di quel discorso, sì, comunque... uno dei più belli sicuramente, anche di composizione dell'immagine, regia, messa in scena, l'hotel è uno dei limbi più, si può dire limbo al plurale, non lo so, sì. di questi luoghi astratti, queste prigioni più belle che ci sono nel cinema, è fantastico, poi quel finale, le fiamme, che non so, mai ricordato, non c'entra nulla, ma la metropolitana, gli amanti del Pont Neuf, però è molto bello, è davvero... Poi sì, quell'ultimo fotogramma, quell'idea dell'essere chiusi nel quadro, forse è il film più audace che hanno fatto, eppure arriva molto presto nella filmografia. Sì, decisamente il più audace. Poi mi piace quando arrivi a un certo punto in cui non sai più cosa è reale o no, e c'è una scena proprio, quando lui torna dal produttore ed è vestito da militare, e dice: mi hanno nominato generale, sì, oggi c'è una guerra, e tu dici: ma questo è stupidissimo. E invece no, sono gli anni 40, la guerra c'era, è normale, però non capisci più nulla, sei fuori da ogni logica, meraviglioso, ti stai perdendo anche tu in quel limbo, esatto. Mi ricorderò sempre la puntata dei Simpson in cui giocavano a baseball o a calcio, comunque Bart rimaneva ad aspettare Homer sotto la pioggia, no? E i bambini dicono: vieni con noi, Bart, andiamo a vedere un film vietato ai minori. E non dicono cos'è, poi quando vanno via urlano: Barton Fink, Barton, perché pensano chissà di andare a vedere cosa. È una scena davvero divertente. Saranno divertiti, però. Sì, infatti, chissà. Poi... divertente lo è, per un bambino, non so. Poi arriva Mr. Hula Hoop, sì, uno dei minori. Anche tra le commedie, una delle meno divertenti. È un... diciamo che... il bravo uomo, la storia del bravo uomo, che... anche questo, come i due film precedenti, però è un omaggio a quegli anni, a sì, sì. I Roaring Twenties, poi vabbè c'è il mio idolo Paul Newman, comunque sì, tra i minori, però mi era piaciuto, mi piaceva l'idea del karma, di anche questo finale che un po' così si prende qualche libertà sulla finzione, sulla verosimiglianza. È un film che secondo me è da vedere in lingua originale, perché è verbosissimo, velocissimo, è molto basato sugli accenti, e si fatica a stargli dietro, ma è estremamente divertente. E qui c'è, tra l'altro, per ritornare a Raimi, c'è Bruce Campbell che fa un personaggio secondario, e mi è tornato in mente anche che, non abbiamo detto, ma in Crocevia della Morte c'è Sam Raimi, e c'è anche Ted, se non sbaglio. Sì, Ted, ma forse c'è anche in altri film dei Coen. Sam è, credo, lì l'unica volta che compare, ed è bellissimo, quei due cannoni, sì. Che sparacchia contro una parete. E, perché l'ho rivisto recentemente, Bruce Campbell c'è anche una mini, proprio minuscola, se non te ne stai attentissimo, non te ne accorgi, anche in Prima ti sposo poi ti rovino, una piccola parte. Dunque, sì, sono tutti amici nel circoli. E poi passiamo a Fargo, vabbè, Fargo, capolavoro. Pensa che la prima visione a me non era piaciuto, non che non era piaciuto, che era brutto, però dicevo, rivisto, wow, ma che cavolo stavo pensando? Questo è il brutto del cinema, se vedi un film magari in un periodo sbagliato... Non è il brutto, è il bello, è che bisogna rivederli, vedila così. Sì. Anche, però è il brutto della vita, allora, che non hai mai abbastanza tempo. Certo, sì. E Fargo va, forse il, no, il film più bello no, però wow, è il noir, no, neanche il noir, è difficilissimo con i loro film. È bellissimo, non è serio quanto L'uomo che non c'era, è nello stesso genere noir, perché ha dentro molta comicità, però è wow, è il noir più divertente della storia, è meraviglioso, tutti bravissimi, sì. Wow. Sì, lì compaiono proprio tutti i personaggi di contorno coeniani, il marito, lei, i criminali, è tutto fantastico, sì. Poi l'idea di mettere come protagonista una donna incinta, di un noir, come fai? E che entra in gioco al 40° minuto, perfetto. E poi il grande Lebowski, come fai a fare due film del genere, di fila? Sì. Sei un genio. Io l'ho già detto quando l'abbiamo rivisto, secondo me è una delle sceneggiature migliori della storia del cinema, il grande Lebowski è solidissima, oltre che divertentissima, è bello l'omaggio mescolato al loro cinema, che è già omaggio ma è anche ironia, è anche difficile riparlarne cercando di dire qualcosa di nuovo, perché è un film che rivedi a oltranza, è sempre freschissimo, è sempre, lo sai a memoria, lo citi e non perde mai colore. Ecco, anche se è folle, perché appunto è più che altro un omaggio, è il più bel remake della storia del cinema. È un remake sì, fuori dai canoni, però insomma la storia è quella del grande sonno. Io li confondo sempre col grande freddo, il grande sonno. È difficile andare a capire che sì, è il remake di quel film, però qualcosa è rimasto. Ed è veramente il più bel remake della storia, è folle, ma sì. Sì, poi Jeff Bridges che all'apice della sua carriera, il personaggio coeniano per antonomasia, quello che però, sì, vive in un mondaccio, ma forse grazie anche ai personaggi che lo circondano, sopravvive, ci rimane sopra, galleggia in questa schifezza, al contrario invece di personaggi come Llewyn Davis, è bello proprio il capovolgimento. Lì l'ironia, la follia di personaggi anche antipatici come quello di Goodman, insopportabili più che antipatici, ti salvano, è bello. Poi bello ancora speranzosi. Il personaggio di Buscemi che passa dal parlare troppo e comunque essere sempre zittito a quello dopo in cui non parla praticamente più e viene zittito lo stesso. Sì. E a proposito di stare a galla, è anche il finale di Fratello dove sei, senza dire troppo, però anche lì i personaggi rimangono a galla. Anche questo è un remake appunto di un poema epico, sì. Sì. E devo sempre aggiungere. Anche questo è particolarissimo, la fotografia che ricorda l'ultimo, Davis, e anche questo appena rivisto, divertentissimo, cos'è, il primo capitolo della trilogia dell'idiota, no? Di Clooney, con sì, Clooney. Lì compare, sì. E anche questo è spassosissimo, forse anche questo è uno dei minori, molto più minori tra i minori, però è meraviglioso anche questo. È importante perché il primo, cioè vabbè, T-Bone Burnett aveva già scelto le musiche per Lebowski, però questo è il primo film in cui Burnett comincia a collaborare con i Coen, ed è appunto, sì, come dicevi, importante per la fotografia, perché è il primo film della storia ad essere completamente ricorretto con la color correction, e Deakins, il direttore della fotografia, insomma, che più o meno ha lavorato quasi sempre con loro, ma insomma, uno dei più importanti anche io quest'anno, insomma, lo abbiamo rivisto, fece un lavoro spaventoso per ridare poi questo look alle foto antico. Bello, sì, bellissime musiche, insomma, anche qui si comincia poi a vedere il loro interesse per il folk, e poi sì, molto divertente, folle, coloratissimo, poi vabbè, sì, Clooney comincia sì, a fare la parte dello scemo, la fa molto bene. Purtroppo la color correction poi ha generato mostri, ma questo è un altro discorso. Adesso siamo sì, ai livelli al solito, orribili. Con la computer grafica, insomma, è un'arma a doppio taglio. E vabbè. Poi L'uomo che non c'era, altro meraviglioso. Ecco, i noir non se ne fanno da 60 anni, poi arrivano i Coen e ne fanno uno che sembra uscito dal 47. Strepitoso, uno dei film non solo tra i più belli loro, ma tra i più belli del decennio 2000, secondo me. Una cosa insuperabile nel suo genere. Sì, c'è molto di sangue facile, per certi versi è quasi un, non un remake, no? Comunque ripropone una situazione simile, un intreccio simile, molto cinico, molto amaro, certo, sì. E, sì, è quasi una continuazione in quella direzione. Poi mi ricordo sempre uno dei primi ruoli strani di Scarlett Johansson. Già, sì, la patetica. Un personaggio, sì, sì, al molto piano. Sì, poi fa una brutta fine, purtroppo. Vabbè. Bello, sì, uno dei migliori, senza dubbio. Poi arriviamo a due commedie odiatissime. Leggerine, sì. Odiatissime. La gente qua forse credeva che i Coen fossero morti, poi appunto arrivarono all'Oscar. Eppure due commedie che, allora, la prima io la amo tantissimo, l'ho anche rivista, ho anche il DVD, Prima ti sposo, poi ti rovino, perché... E visto che loro omaggiano sempre, questa volta hanno omaggiato la commedia anni 40 e 50, quella che appunto influenza molto il loro cinema, come hanno detto. E qui è il personaggio, visto che si parla sempre di Clooney come il nuovo Cary Grant, e qui è esattamente lui, è esattamente Cary Grant, ha un ruolo che avrebbe fatto Cary se fosse vivo oggi, ed è recita come lui. E poi la lotta uomo-donna è anche un po' Screwball, a me piace tantissimo, sono l'unico, sì, forse, neanche a loro è sarà chiaro che si rifà quel filone, poi lo fa molto bene, appunto un genere che masticavano. Sì, non so, non so se è più odiato questo o quello dopo. Lady Killers, sì. Di sicuro di più, e non capisco perché. Io ho riso dal primo minuto alla fine, è uno spasso. Sì, uno perché è un remake, molti dicono, non è un remake, che poi vabbè, hanno già fatto dei remake prima in un certo senso, quindi non ha senso come disappunto. E poi sì, è divertente, che se ne dica, Tom Hanks come al solito, anche lui odiatissimo spesso, senza motivo, bello, sì, è una... Anche qui poi c'è il giusto mood, la giusta rievocazione di quel tipo di cinema, sempre un po' slapstick più che Screwball. E poi anche qui la musica, il colore, davvero riescono come pochi loro a ricreare su pellicola l'epoca, a renderla verosimile, reale, concreta. E qui sì, è tutto molto sopra le righe, però gli dà una patina antica... Però quasi non si capisce in che tempo è ambientato. È bello, molto bello, sì. Poi vabbè, è il film con cui hanno vinto tutto, Non è un paese per vecchi, uno tra i più cattivi, tra i più oscuri, ma anche tra i più belli, insomma. Una potenza, abbiamo già detto, se riesci a uscire vivo da uno scontro col petroliere, vuol dire che ce n'hai. Sì, poi vabbè, qui è chiaro che la sceneggiatura di McCarthy prende un po' il sopravvento, cioè la sceneggiatura, scusa, il romanzo, quindi loro hanno dovuto sacrificare parte del loro stile, ma neanche tanto, è meno ironico naturalmente, per forza di cose, hanno voluto fare un film su quei romanzi, su quell'epoca, il western crepuscolarissimo, e poi boh, qui è la dimostrazione che quando viene meno la sceneggiatura originale sono comunque dei maestri a gestirle, per cui poco importa, è un capolavoro originale o no. E dopo un film così cosa fai? Torni alla commedia, un classico loro. Infatti l'uomo che non c'era, si dedicano a due commedie spassose e dopo Un paese per vecchi passano a Burn After Reading. Anche questo io lo metto tra i miei preferiti, e si ride dall'inizio alla fine con dei personaggi totalmente sopra le righe, Pete, Clooney, anche questo spassosissimo. Sì, poi un senso del ritmo che non ha quasi nessuno nell'ambiente della commedia, un film che scivola via, sono tre battute ed è finito, è magnifico, è velocissimo e divertentissimo, sì, dovrebbe essere insegnato nelle scuole di chi vuole scrivere commedie, perché a quanto pare è diventato difficilissimo, sì. Invece qui ci sono degli esempi da manuale, invece dopo è l'opposto. No, tra l'altro il bello è che non sono mai volgari i Coen, possono essere violenti, e la violenza nei film dei Coen è sempre colpisce lo stomaco. Mi ricordavo prima i colpi in testa, sia in Crocevia della Morte che in Fargo, proprio le teste che si aprono col sangue che esplode, dopo magari una battuta, la violenza c'è sempre, ma la volgarità mai, e questo è ammirevole da parte loro, visto che la commedia americana... Sì, no, dico, qui ci sarebbe l'occasione per essere volgari, cioè quella scena, sì, la cantina di Clooney, però è il modo di fare che è diverso. Non garbato. Sì, sono su un altro livello. Sì, anche qui tra l'altro c'è una bella scena con una testa aperta. Sì, infatti, senza dire niente. E anche prima con una pistola. Insomma, sì, è quella violenza che esplode nell'ordinario, che poi non è ordinario perché è comunque un film dei Coen, però è bello, sanno sorprenderti e prenderti allo stomaco, cioè. E sarà che sono ebrei, non lo so, la commedia ebraica è sempre comunque garbata e raffinata. E a proposito di ebraico, il film successivo è proprio su quello, proprio sulla loro cultura e religione. A Serious Man è un film che molti hanno detestato perché non hanno capito. Cos'è quella cosa finale? Cos'è quella cosa iniziale? Cos'è quella cosa nel mezzo? Sì, meglio le trottole che girano, quelli sì, vanno fuori. Qui c'è una cosa che gira, però è un po' più complicato, un po' più grossa anche. Sì, sì, una meraviglia. Tra l'altro che si dimentica perché è scritto bene ed è un soggetto interessante, ma anche questo, una fotografia, una regia magnifica. Poi in quel finale c'è quel colore, davvero non poteva essere più scuro senza essere buio. Grandioso come film, divertente anche questo, perché incredibilmente è divertente, però è un film sulla fine bellissimo, drammatico. E qui forse viene fuori una delle cose che odiano di più i detrattori dei Coen, quelli che non capiscono il loro genio, il loro girare fintamente a vuoto, cioè ti perculano quasi nei loro film, ti perdi, sia con Barton Fink, ma anche Il Grande Lebowski, cominci a girare insieme ai personaggi e loro non sanno dove stanno andando, quindi anche te cominci a perderti. E qui è perfetto perché in Serious Man ricevi dei cartoni in continuazione e arrivi alla fine quando cerchi, sei lì barcollante e arriva l'ultima scena e dici ma cosa? È meraviglioso, e credo che sia questo che tenga più alla lontana i deficienti che non capiscono il genio dei Coen. All'ultimo film, poi ne riparliamo per l'ennesima volta. Anche qui è un girare. Sì, questo sta piacendo di più di quanto mi sarei aspettato, proprio perché è un film molto simile a Serious Man, ma anche a Barton Fink, perché è un viaggio e uno sguardo a tematiche proprio agli antipodi rispetto, per esempio, a Burn After Reading. E non so, non capisco come mai piace, forse perché vedono comunque il lato romantico forte del film, che ovviamente c'è, non puoi non vederlo, può conquistare o no, però credo che molti o alcuni abbiano perso o scelto di ignorare quell'altro lato, perché comunque è un film veramente cattivo con i suoi personaggi, con lo spettatore, perché insomma, vabbè, non anticipiamo, giusto. Vabbè, il prossimo è Il Grinta. Il Grinta, questo, odiatissimo. Sto odiato più che altro non dal pubblico in generale, ma dai fan, sì. Dai fan dei registi, ecco, perché non ci si spiega come mai abbiano voluto fare questa cosa. E questo è proprio un remake a tutti gli effetti, non c'è neanche tanta rielaborazione sulla sceneggiatura, però ho rivisto dopo l'originale e diciamo che c'è quel finale, che probabilmente è la cosa più bella del film, che cambia, non mi ricordo se anche nell'originale c'era tutta quella parentesi dopo, forse sì, dalla cavalcata dopo la cavalcata, il futuro, cioè il salto temporale, sì. Mi sembra che non ci fosse, che è una cosa che mi fa venire i lacrimoni ogni volta sul tempo che passa, cioè questo discorso sul tempo che ci sfugge, e neanche un film sulla nostalgia in quel senso, per questo mi piace. Poi vabbè, una colonna sonora pazzesca, e ogni volta mi chiedo come mai mi piacciono tanto le musiche religiose americane, gospel, cioè qui c'è Leaning on Everlasting Arms, che poi è quella che c'è anche in La morte corre sul fiume, la stessa canzone cantata da voci molto diverse, ma anche in Fratello dove sei, cioè quel folk religioso, mi piace sempre tantissimo. Hanno delle melodie, dei testi che, non so, nonostante sia ateo, mi colpiscono sempre, mi piacciono molto, è una musicalità che adoro. E poi sì, questo mi piace, quella cavalcata, quel ritornare, lei che torna a cercarlo. Ma sai cos'è? Allora, tecnicamente è uno dei loro migliori, infatti venne candidato nei primi tecnici tutti. Ma forse è che parte molto coeniano, è molto divertente, molto ritmato, ma in una seconda parte si siede perché va a fare il remake, cioè va a ricopiare il film, quello di John Wayne, e forse smette un po' di essere coeniano. Da dopo la scena nella casa dove ci sono i criminali, ricordo male, insomma, quella... Sì, vabbè, sì, la baita, quella ecco, assediata. E forse lì un po' si siede. E forse quello che hanno mi ricordo ai tempi, che calava un po' il ritmo, calavano un po' le risate. Vai rivedendolo, ricordo che al cinema sì, non ero proprio convintissimo. L'ho amato di più rivedendolo, perché l'ho rivisto 2 o 3 volte. E lo metto vicino a Gli Spietati come tipo, perché, ovviamente perché sono western crepuscolari, ma perché poi parlano della stessa cosa, di questi miti che non esistono, però forse esistono, no? C'è un po' la demolizione dell'eroe, però alla fine, no, sai, anche qui lui sbaglia, è ubriaco, non riesce a sparare la bottiglia al volo, però alla fine è un po' come Gli Spietati, no? Gli Spietati... c'è un tono più serio, però il personaggio di Eastwood, in quel finale gli sparano di tutto e lui sembra immune alle pallottole, no? C'è questo, è sempre una demolizione del genere, però è anche una celebrazione. Non so, io credo che molti siano ingiustamente cattivi. Capisco che sia uno dei loro film magari meno significativi, però non sono particolarmente affezionato. E poi... arriva Davis, prego. Sì, anche questo è un cambio di tono di nuovo, perché rispetto a quelli prima c'è sempre un alternarsi, la commedia o comunque un film positivo, ottimista per certi versi, e invece poi pam, arriva la mazzata. Sì, a proposito di Davis, l'ultimo, non candidato a nessun premio nonostante siamo in stagione da Oscar, perché è un film in cui non ci si vedono i soldi, insomma, come dice Bud Grossman. È la storia di Llewyn Davis, o Elwin, come dice il personaggio di Goodman, un musicista folk, compositore, beh, noi diremo cantautore, che cerca di sbancare il lunario, insomma, dopo poche scene capiamo che ha perso un compagno, il socio, insomma, l'altra parte del duo musicale, e quindi si suppone che questa sia la causa del successo che non arriva, ecco. Poi invece vediamo che non è quello il punto. Lui viaggia, si muove per questa Manhattan coperta di neve, freddissima e molto poco ospitale, e cerca, insomma, di vendere la sua musica, perché vuole vendere solo quella, non vuole lavorare, non vuole diventare una persona qualsiasi che esiste e basta, come il padre. Però insomma, in un modo o nell'altro non ce la fa, ecco, si sposta, tant'è che poi deve addirittura abbandonare Manhattan per cercare altrove l'occasione, insomma, e chissà se ce la farà. È un film prima di tutto sì sulla musica, perché come tutti i film precedenti c'è, la musica ha un ruolo molto importante, però non è un film sulla musica e su un musicista. Poi addirittura all'inizio si pensava, io credo, magari anche altri, ma mi sembra di averlo letto, si pensava potesse essere un film su Bob Dylan, comunque indirettamente su un personaggio ispirato a Bob Dylan, e un po' lo è, ma in realtà, come poi è venuto fuori, anche se magari gli esperti di folk veri lo sapevano già, è un personaggio, un film più ispirato a Dave Van Ronk, che è a sua volta un musicista folk di Manhattan, che è un po' il papà di Bob Dylan e di quel revival folk che venne dopo, tant'è che Van Ronk divenne proprio promotore di Dylan e di altri talenti. Insomma, era un po' il simbolo di una generazione che cedeva il testimone. E insomma, vediamo subito che i Coen interessa relativamente, o per niente, la biografia, il dato storico. Come al solito, come per A Serious Man, l'ambiente, il contorno è un pretesto per parlare di qualcos'altro, di un della fine, di nuovo. Come A Serious Man è un film sul senso della fine, su un apocalisse in un certo senso. In A Serious Man era forse più vero questo, qui è un'apocalisse più piccola, più patetica, come poi sono patetici i personaggi, è la storia di un eterno fallito. Questo vale un po' per tutti i film dei Coen, ma Llewyn Davis è un po' più perdente degli altri, è uno che rimane indietro, è lasciato indietro dalla storia, dalla musica, dalla città, è proprio il fantasma di un'epoca musicale che non c'è più. La cosa bella che si nota poi da subito è come questo venga raccontato anche attraverso le immagini. Abbiamo parlato di Dickens per Fratello dove sei, qui c'è un altro direttore della fotografia, dopo tanto tempo cambiano e si rivolgono a Bruno de Bonnel, perché era impegnato, non so se lo sapevi. No, non... era su set di Skyfall Dickens. Ah quindi hanno fatto di necessità virtù, sì. E sono rivolti a qualcun altro che ha fatto un'operazione simile, comunque un lavoro, non so se essendo profano, non so se sia tutto post produzione, color correction, o se qualcosa è stato fatto prima. Sicuramente c'è un lavoro a tutto tondo, loro hanno girato in un certo modo e poi si è lavorato dopo sul fotogramma. Comunque c'è un lavoro di manipolazione dell'immagine, del colore, per renderla antica, ma non antica nel modo più ovvio. Cioè, qualcuno forse avrebbe pensato automaticamente al bianco e nero, che è la cosa più ovvia, no? Parli del passato, anni 60, decoloriamoli, l'antico è in bianco e nero. No, non fanno questo, non fanno neanche una scelta ancora più stupida, cioè il pop, il colore. Gli anni 60 spesso si collegano a un'estetica colorata. No, è il contrario, loro si decolorano, ma senza togliere i colori, la buttano sui colori freddi. Loro e De Bonnel, che ho dimenticato di dire, è tra i tanti film il direttore della fotografia di Faust, e sembra un caso, ma poi vedendo il film l'analogia visiva c'è. Chiaramente sono film diversi, ma neanche troppo, però il colore e la consistenza dell'immagine è molto simile, perché appunto è fredda, è rarefatta quasi, molto blu, molto grigio, molto bianco, desatura. Anche perché sì, ma sì, in un certo senso c'è una desaturazione, ma è anche una ricolorazione successiva, forse una manipolazione di colori che non saprei definire con una parola. Sì, diciamo che è tendenzialmente desaturato, però c'è anche una patina, come se si fosse spalmato qualcosa sull'obiettivo, una patina bianca e polverosa. Nella recensione dicevo, sembra quasi come se un faro fosse puntato sempre su di loro, un faro in un caffè del Greenwich Village, con il fumo di sigaretta e la luce del palcoscenico. Sembra davvero che siano sempre sotto un riflettore, su un palcoscenico a cantare, e poi cantano davvero, perché lo fanno in continuazione e canzoni intere. Questo è un film musicale per eccellenza. Spesso si parla di film musicali come distinzione poi dal musical, e qui ci sono le canzoni e le sentiamo tutte, le sentiamo, poi vabbè, in italiano le hanno anche sottotitolate, perché sì, insomma, hanno un'importanza anche come testi, definiscono alcuni tratti dei personaggi. E comunque, si dicevo, questa fotografia che decolora, desatura e raffredda tutto, perché è un film freddo su una New York freddissima, e non so come spiegare, definisce, cioè no, al contrario, rende sfocati i contorni, li rende più sfumati, più lontani, e sembra quasi che appunto questo passato sia un passato davvero distante, con il modo di rievocare l'idea del tempo che è trascorso è quella del rendere l'immagine scontornata, poco definita, come se fossero fantasmi di un'epoca che poi non è così lontana, ma comunque persa per sempre. Scusa l'interruzione, come la fine di In the Mood for Love, ti ricordi? Vedere il passato attraverso un vetro sporco, diceva, sì, ecco, sì. Tony Leung. Un vetro appannato quasi. Sì. E Sì, sembra davvero mettere un filtro tra noi e quest'epoca. Perché? Perché è un film sulla fine di un'epoca musicale, sulla fine di, del folk come lo si conosceva prima, prima che arrivi Bob Dylan a renderlo non commerciale, anche se per certi versi lo è stato, ma a renderlo qualcosa di più, qualcosa per pochi. In un certo senso è anche un complimento a Dylan, cioè è arrivato lui, non c'è più spazio per nessuno. Però, ripeto, da un altro lato stiamo parlando di un film che non è interessato principalmente alla musica, è la storia di un uomo, di un perdente, di uno sconfitto che non ha speranze e non se ne vuole rendere conto, comunque fatica ad accettare la cosa, quindi si sposta, viaggia da un divano all'altro, da un letto all'altro, da un tetto all'altro, tra un pasto scroccato e l'altro, ed è chiuso in questo circolo che poi davvero sembra un cerchio, un loop, visto che da registi talentuosi quali sono, poi i Coen sanno suggerire l'idea di circolarità senza per forza inserire l'elemento surreale, perché molti dicono sì, ricorda il finale di Barton Fink, quello di Inside Llewyn Davis, sì, però in Barton Fink c'era una volontà precisa di creare un effetto straniante, qui c'è quella volontà ma viene messa in atto con una trovata registica, quindi sì, per noi è chiaro il contenuto, la metafora, però potrebbe semplicemente essere un taglio di montaggio, una scelta, un raccordo che viene messo giù così, quindi è molto bello, molto raffinato, c'è il surreale ma ce lo vediamo noi, ecco, è un bel modo di suggerire l'idea. Quindi appunto un film su una fine, ecco, non c'è una tromba d'aria, un ciclone all'orizzonte, ma la fine di un'epoca musicale, di una carriera che non decolla mai, che ti porta ad essere un miserabile, che elemosina tutto, manda a fanculo tutti, se ne frega di tutti, poi invece si preoccupa soltanto di un gatto che poi ha un ruolo molto importante, tant'è che poi molti parlano solo di quello, di questo gatto che ruba la scena a tutti, poi sono due ma tre, perché i gatti attori sono tre, a quanto ho capito, una femmina e due maschi, perché poi è importante che a un certo punto c'è il cambio di gatto e c'è una scena molto bella, dov'è il suo scroto? È uno dei pochi momenti divertenti del film, oltre a quello in macchina con John Goodman, che è molto bello, è il musicista jazz, anche quello un po' parodizzato, reso così patetico, che però se la prende con un altro, con il musicista folk, cioè nessuno rispetta questo Llewyn Davis, nessuno ci crede nel folk. In realtà per il folk c'è un futuro, ma non per i Llewyn Davis che si sabotano da soli, si provocano le sconfitte in qualche modo, per disperazione anche, perché lui insomma, ha bisogno di vivere, di campare, ha bisogno dell'assegno, però non lo vuole accettare con certi presupposti. E quindi fa di tutto per stare lontano da quel palco al momento giusto. E qualcuno ha giustamente ricordato che alla fine si parla di un duetto che avrebbe dovuto esserci, no? E invece non c'è. Perché? Perché Llewyn fa qualcosa che lo allontana dal palco. E sul palco ci rimane solo chi? Non vi anticipo. Però è bello anche questo, io non ci avevo dato peso alla cosa. Però è anche questo è significativo, lui si tiene lontano dal palco in qualche modo. È vittima sia del caso, perché c'è, lo tormenta in continuazione, anche con questa neve che gli bagna i piedi in una scena bellissima, quasi chapliniana, come diceva Lo. E niente, insomma, è un film amarissimo, non so se il più amaro, che come abbiamo visto poi riguardando la filmografia si tornano in mente quei film come L'uomo che non c'era, Blood Simple, lo metterei insieme a quelli, però come ho già detto lo metterei in particolare insieme a Barton Fink e a Serious Man, perché parla delle stesse cose, parla di personaggi bloccati, di epoche che bloccano questi personaggi, c'è la nostalgia ma c'è anche l'amarezza e insomma, è un film. La cosa che mi ha colpito è che scivola via, davvero. Mi è sfuggito quasi dalle mani. È preciso, è elegante, è scritto benissimo, è girato meglio. È un viaggio in macchina che sembra durare 3 mesi, però in realtà sono passati pochi minuti. Come succede un po' a Llewyn, che è andato a Chicago in pochi giorni, ma per lui è come se fosse passata un'eternità. allo stesso tempo per me è stata la stessa cosa. Mi rendo conto che è passato pochissimo, che è scivolato via, ma c'è dentro un'odissea di nuovo. C'è anche qui Ulisse, forse per ricitare Fratello dove sei, che è a posteriori un po' l'inizio di questa parentesi. Insomma, Fratello dove sei era l'origine del folk, l'ha raccontata con molta ironia, il mito, no? Il mito anche letterario di Ulisse, dell'Odissea, e invece qui è la tragedia, sì, il mito, sì, l'epica, ma è l'antiepica, l'epica dei perdenti e degli sconfitti, e degli esclusi dalla storia, che insomma lascia senza parole. Bellissimo, un film, sì, ho detto minore, ma perché sembra più personale, più intimo, più una storia più intima, più chiusa su se stessa, però insomma minore nel senso migliore del termine. Credo comunque, insomma, anche ripensandoci, riconsiderandolo, mi sia piaciuto davvero un sacco e probabilmente lo metto tra i loro migliori film, e già tra i migliori dell'anno sicuramente, perché ormai siamo nel 2014 e hanno già lasciato il segno, insomma. Vai. Quando i gabbiani seguono il peschereccio è perché credono che buttino in mare le sardine. No, questo era un momento Shia LaBeouf, o Shia LaBeouf, o quel cretino. Per ritornare un attimo a quello, ma scusate, ma Lars von Trier se lo potrà anche permettere di essere un deficiente, ma Shia LaBeouf, ma chi sei? Vabbè, chiusa qua. Sì, per continuare il discorso filmografia dei Coen. Oh, ridendo e scherzando, sono 4 anni che non, 3 anni e mezzo, che non vedevamo un Coen al cinema. E se ne sentiva la mancanza, anzi non tanto, perché hanno questo modo loro, appunto, di essere minori, di essere nascosti, di non farsi notare troppo. Ma che dici, vado, se vado mi si nota di più, vabbè. E che bello ritrovarli. Che bello ritrovare i loro personaggi, appunto, gli sconfitti, gli imbranati della vita. Che bello, come ho già detto, questo loro girare a vuoto che ci prende dentro e ci fa perdere nei suoi film. Che bello ritrovare John Goodman, che anche lui era da tanto che non faceva un film con loro. Che bello ritrovare al cinema il grande cinema dei Coen. Poi però il film è una botta, che non è di certo... Non si può definirlo bello nel termine, non so, bello, no, non è bello, è un buon film. Non è allegro, ecco. È allegro, ecco. Tu dicevi, appunto, è forse il loro film più amaro, senza alcun dubbio, perché negli altri film, i noir, Fargo, che era già più divertente, e gli altri due molto più cupi, alla fine erano dei personaggi che non stavano così male. Penso a William H. Macy di Fargo, lui stava bene, aveva un concessionario. Tutto quello che muoveva questi personaggi era arricchirsi facilmente. Loro già vivevano bene, non dovevano sopravvivere come Davis, come Llewyn Davis. Loro stavano bene, quello che li rendeva cupa tutta l'atmosfera e la loro ricerca della ricchezza facile. Questo è un pugno nello stomaco, perché dice senza mezzi termini che la vita è una merda e che forse l'unico modo per uscirne è quello che ha fatto Mike, che, oddio, si può anche dire, no? Tanto credo che sia... Sì, non è un colpo di scena, sì. Sì, dall'inizio, insomma, dove vuoi che sia questo Mike. E appunto quello, cioè, è un film veramente dove non c'è una via d'uscita, con questo suo girare ciclico, è un loop, come hai detto te, e l'unica via d'uscita è quella. È brutto, non è che la vita sia, cioè, per riuscire devi suicidarti, sarebbe una contraddizione. Però per certe persone è così, per certe situazioni sembra quasi che quella è l'unica via d'uscita, ed è un film dove non si vede la luce, nonostante sia luminoso, perché sono poche le scene buie, questa fotografia appunto che vira sul seppia, o comunque su colori non tanto sgargianti ma comunque luminosi, Si contrappone con il messaggio. Alò parla di i coin che dicono che Dio non esiste. Boh, lo dicono da una vita che Dio non esiste. Forse dal primo sì, film. Indirettamente poi il punto è quello, però sì, credo che sia una cosa più ampia la loro. La storia, cioè parlano di un po' di cose in più. Sì, insomma, anche la Serious Man era un film sulla religione, però non c'erano risposte nella religione. Sì, è il caso più che un dio, un'entità superiore. E insomma, lascia un qualcosa dentro, qualcosa di brutto. È veramente il film più amaro loro. Gli altri li vedevi comunque con un distacco, erano storie noir appunto, di genere, personaggi furbetti. Davis, prima di tutto, è uno stronzo. E poi è, non lo so, è più normale, è uno che non ce la fa proprio, non sta bene, non ha, se non ha la musica, ha qualcos'altro, no, lui non ha proprio niente, deprimente, è un film deprimente, bellissimo, ma non bello come si potrebbe intendere. E sai cosa mi ha ricordato? Francis Ha, la New York dove l'artista non vive. Dove alla fine devi semplicemente esistere. Quella poi era una commedia, e finiva bene, e qui non finisce, è un continuo, e comunque se deve finire finisce male. Però mi hai ricordato quello, sono passati 50 anni e New York non sembra cambiata molto per certi artisti, o forse non sono... Si sono spostati gli artisti, hanno sì, cambiato quartieri, Greenwich Village, sì, è ancora un po' quello, però... Se sei ricco, come... Sì, appunto, sì, quando vai a vedere gli artisti, mi ricordo la puntata del Testimone, facevo vedere gli artisti lì, avevano un attico della Madonna e si lamentavano. Sì, appunto, i loft mega giganti. Ma ti ricordi, Francis Ha, lei all'inizio sta... Sì, dalle parti del Village o dalle parti di Chinatown, perché vive con un'altra, ma poi sì, deve spostarsi a Brooklyn. Molla, sì. E sì, anche certo, a Brooklyn è difficile. E poi va fuori dallo Stato, cioè va fuori da Manhattan, e dai cinque quartieri. E sono passati 50 anni e non è cambiata New York o non sono cambiati loro? Forse entrambi. Non so, mi ha fatto pensare a loro, a Francis Ha. E anche un po' il bianco e nero, così, chissà com'era in bianco e nero questo film, che è bellissimo anche così, però chissà. Donne, le donne nei film dei Coen sono sempre importantissime, sono sempre memorabili, senza citare la Frances McDormand di Fargo, o le tante Holly Hunter dei suoi film, o come si chiama, Diane... qualcosa di Barton Fink, che fa una fine bellissima, ed è un personaggio importantissimo per lo scrittore, amico di Barton. Mm-hmm. E qui non ci sono le donne. Cioè, ovviamente c'è quella interpretata da... oggi con i nomi niente... Carey Mulligan, però... A parte che non mi è piaciuto, è volgarissimo. A parte quello, e poi anche un'ipocrita, perché... Sì, fa tanto la moralista, ma poi scopriamo nel finale. Sì, sì. L'unico positivo ci sarebbe, ma lui Lewin non la va a trovare, no? Cioè? L'altra la sua ex, quella che trasferita sì, ad Akron. Akron, sì. E lui potrebbe, però chissà perché, per non approfittarsi del passaggio, comunque non procede. Anche per questo sono le sue decisioni che lo portano a ritornare sempre sui suoi passi bagnati dalla neve, non riesce mai a farne una giusta. Però non so, ho sentito l'assenza della donna Coen, che di solito anche la fidanzata dell'altro Lil Wylin, c'è il gatto, come lui va in giro per metà film con un gatto che è femmina, quindi ma poi cambia anche sesso, cambia anche proprio se stesso, quindi non lo so. E invece musiche, sì, tutti che dicono che belle, bellissima quella di Help Me Mr. Kennedy, Please Mr. Kennedy, sì. Con Al Cody che fa il rumorista, sì. Che è la più sciocca tra quelle che fanno, infatti è quella commerciale fatta dal suo amico Justin Timberlake, e che quindi vale meno, e lui che è tutto d'un pezzo, il musicista che fa la musica d'arte, la vede come una schifezza. Però ecco, io ho un po' di problemi col folk. Ho preferito, tra quelle folk, preferisco quelle molto più religiose e melodiche, gospel di Fratello Dove Sei. Queste un po' meno. Grande pregio del film sono le musiche, no? E se non riesci a entrare un po' in contatto con le musiche rimane un po' fuori. Però vabbè, era solo così per dire, mi è piaciuto tantissimo comunque. Ah, non sono difetti, sono cose mie queste. Ma forse dipende anche dal fatto che le canzoni, che poi a qualcuno possano piacere, ci sta. Dico, però sono canzoni molto amare anche loro. Che lui canta solo di cose terribili, la moglie di King Harry che muore, l'impiccato, sì, lui che dice impiccami, impiccami, o l'addio, capisco, lui ha una bellissima voce intanto, per non essere, ma non so, magari non sono informato, era anche cantante prima, e poi i testi non sono affatto male, poi sono suoi e di Marcus Mumford, ricordiamo, giusto per informazione. Sì, io invece al contrario sono un amante del folk di Bob Dylan, che però poi ha cominciato a fare un folk già un po' più americano. Questo era un folk, proprio il folk per eccellenza, canta di canzoni inglesi, poi lui è cos'è, gallese, lo dice a un certo punto. Sì, gallese. Di origini gallesi, quindi c'è anche l'elemento folk, insomma, inglese. Insomma, alcune le ricordo, perché lui ha una bella voce e mi sono rimaste impresse. Poi sì, non stravedo come altri per la colonna sonora, sono molto belle, poi ci sono momenti divertenti, anche il quartetto, il trio, quello con i maglioni bianchi. Bella, quella mi piace tantissimo. È molto retro, la signora invece con lo strumento bellissimo, mi ricordo come si chiama, la signora Noè, o Mosè. Però sì, insomma, a me è piaciucchiata, una bella colonna sonora, cioè la colonna sonora, e qui non è neanche forse giusto, perché sono canzoni dentro il film che cantano loro, sono le canzoni dei personaggi. Sì, è quasi musical, no? Sì, sì, beh, perché comunque esprimono una certa parte dei personaggi, quindi sì. Un film musicale a tutti gli effetti, forse è uno dei più, tra virgolette, coraggiosi, perché davvero mette tante canzoni in un film, diciamo, narrativo, convenzionale. Ecco, questo è... purtroppo devo citare Sorrentino qui, che nella sua intervista parlava proprio di questo, che i Coen hanno il coraggio di lasciare la musica andare senza far proseguire la trama. Cioè, c'è il pezzo musicale che durerà 4-5 minuti ed è quello. Non c'è intanto montaggio, varie sequenze, la canzone si taglia, dissolvenze, no, la fanno tutta ed è un concerto quasi. C'ha ragione su questo, mannaggia Sorrentino. Imparasse qualcosa. Infatti, no, lo ammette, sono andato lì a intervistarli perché volevo capire, ma i Coen non gli hanno detto niente. E chi è questo? Sì. Ma come? Io ho lavorato con tua moglie. Ma ti ho dato la mancia, perché non se ne va questo qui? Vabbè. Sì. Mamma mia, Sorrentino. E dobbiamo passare all'ultimo film. Madonna, povero, lo lasciamo così in coda, Shandor. Sì, non ce la facciamo più. L'abbiamo messo per ultimo perché... No, ne vogliamo comunque parlare, è un bel film, nonostante... È molto bello. È difficile, magari qualcuno si addormenterà. Però, allora, All is Lost, Tutto è perduto, secondo film, se non sbaglio, di J.C. Chandor, il primo era Company Man. Margin Call. Sì? Ma su? Aspetta, vai a vedere. Ed è finalmente il primo film fatto come si deve su un naufragio e su un naufrago. Protagonista è, ed è l'unico personaggio in scena per tutto il film, per tutti i 90 minuti, sì? Robert Redford, che ormai va per gli 80. Robert Redford, che è questo signorotto che ha la sua età, che va fuori con la barca e gliene succedono di ogni no, però all'inizio va contro un container odiatissimo da chi ha analizzato il film come se fosse una cosa molto vera. Un trattato di nautica. Sì, che poi lo è in alcuni punti, ma insomma rimane un film, oltre a essere molto concreto. Vabbè, va contro questo container, fora lo scafo, ma non è questo il punto, il problema, perché lui lo ripara. È una parte molto bella del film, che come nei Coen, che ti fa vedere tutta la canzone, qui ti fa ascoltare tutta la canzone, qui ti fa vedere tutta la riparazione. E in questo è sì un trattato, è più che documentario, ecco, io lo chiamerei un manuale di come ci si deve comportare in una situazione simile in mare, prima di tutto quando hai un piccolo problema, e poi quando ne hai uno grande, cioè ti arriva addosso una tromba d'aria, una tromba marina o insomma quello che è, o anche solo una tempesta, una grande tempesta, la tempesta perfetta, anzi. Ed ecco, è un film che senza una tigre, senza dei pesci volanti tutti fatti al computer che escono dalle cornici, senza nulla, perché non c'è veramente nulla, è solo un personaggio che si ritrova in una situazione d'emergenza e cerca di salvarsi, e fa vedere le cose come vanno effettivamente. Un solo personaggio, quattro soli dialoghi, nessun flashback, nessun approfondimento del personaggio, andare a scavare, e chi se ne frega, questo è uno che è rimasto in mare, senza, cioè che se la deve cavare da solo, ed è un film molto concreto, molto realistico, molto ben fatto, e nonostante qualcuno si potrà annoiare o addormentare addirittura, io l'ho trovato molto rilassante. Ti lasci cullare dalle onde, nonostante ecco, sia una situazione non proprio felicissima per il protagonista, però è proprio rilassante. Vedi lui che ripara la barca, lui che si mette il cappello di tela, anche questo odiatissimo, devo ancora capire perché. Perché? Non lo so. Vabbè. È anziano, si deve riparare dal sole. Appunto, ma forse è perché lo trova, e vabbè, ce l'aveva lì. Mamma mia, che palle la gente. Ma sì, è bello anche seguire i suoi passi, tutti misurati, è comunque un uomo anziano, e si muove con la sua andatura, è tranquillo, e ti fai sommergere, ecco, da questo ritmo, è molto bello, ti piazzi lì, te lo vedi, è bello, non so, cioè, sì, bello, appunto. Ha una fine ambigua, forse, non lo so, qualcuno dirà di no, qualcuno dirà di sì, e quindi è ambigua. E appunto, sì, sì. Ed è forse, ecco, per chi ci vede una soluzione piuttosto che l'altra, è l'unico momento cinematografico, per il resto è un manuale, e mi dispiace che non se lo sia visto nessuno, e soprattutto che sia uscito in un weekend dove tra due colossi, uno bellissimo di cui abbiamo appena parlato e uno che è una merda, che per fortuna è stato massacrato al botteghino, è Robocop. E ecco, e poi volevo anche dire che mi dispiace non aver visto quello italiano, smetto quando voglio, non me ne vergogno, mi sarebbe piaciuto vederlo. E niente, finisco qui, così magari andiamo un attimo prima. Vai. Sì, molto bello, e per me se metti Robert Redford come protagonista e poi lo metti da solo sulla scena, per me hai già vinto. E poi non sempre il film viene bene, in questo caso è venuto benissimo, e la cosa che mi colpisce è che è un film quindi di un'immediatezza. Capitan America 2, sì. Ho detto spesso. No, vabbè, ma anche l'ultimo suo che ho visto recentemente, The Company You Keep, La regola del silenzio, l'ho trovato davvero fiacco. Comunque lui mi piace, dove lo metti e metti sta bene, qui sta benissimo, perché è un uomo, un attore arrivato a un certo punto e gli dai un ruolo difficile. Uno, perché quando sei da solo in scena sotto non hai il dialogo a sostegno, lui che poi è un attore di stampo classico, ti confronti con un ruolo difficile, e in più poi è un ruolo fisico a suo modo, anche perché ha dovuto poi attraversare, non proprio da naufrago, ma le fasi del naufragio da attore. Poi a me piace, ha un viso antico, è un uomo che rimane bello nonostante sia rosso di capelli, che invecchi insomma inevitabilmente, quindi che se ne frega di invecchiare soprattutto. Sì, no, appunto, sì. Sai quanti divi magari che non hanno il suo problema, perché comunque i rossi i capelli purtroppo hanno questa pelle, questo problema dell'invecchiamento. Lui dignitosissimo. E poi davvero sulla scena il re incontrastato di un film che, dicevo, è di un'immediatezza che anche, ti lascia così un po' anche in difficoltà nel doverla descrivere, perché mi viene quasi da dire, ma perché non ci ha mai pensato nessuno? Sì, qualcuno l'ha fatto il film con poche inquadrature, pochi strumenti drammatici, però il naufragio così non l'hanno trattato in molti, o comunque pochissimi. Eppure è un'idea semplicissima, è togliere le musiche quasi del tutto, qui ci sono, io avrei eliminato quasi anche quelle, magari non l'ultima che ha quella valenza catartica che la lasci lì e va bene. Il resto io avrei proprio lasciato il silenzio, perché è un film che è bellissimo proprio per il silenzio del mare, di un protagonista che non deve dire nulla, è lì, non è disperato, non è l'eroe cazzuto, è un uomo che, sì, potrà sembrare strano, ma decide di sopravvivere e lo fa in modo pratico, fa quello che deve fare un uomo in quelle condizioni, ripara lo scafo, è un lavoro noioso, lungo, ma lo devi fare. Non hai più la bussola, non hai più la nave, va bene, impara a usare il sestante. E anche questa cosa del riscoprire, del rimparare, del lottare, preferisco questo tipo di film, queste lotte, che ne so, mi torna in mente, a parte i soliti noti, qualcuno ha citato Open Water, qualcuno, comunque quei generi di film, i survival, a me è venuto in mente 127 ore, che ti bombardava di musiche, di fotografia saturatissima, l'attore che non sta mai zitto. Ecco, questo è l'antipode, agli antipodi di quel film, l'antitesi. Anche di Vita di Pi, che tu hai citato, però Vita di Pi è proprio un altro film, a me non è neanche piaciuto, quindi vabbè, non infierisco. Però ecco, è un bel film, è quello che serve per raccontare un naufragio. È solidissimo, velocissimo, a me ha anche messo un po' di ansia, ma magari era per altre cose mie. Però comunque glielo metto a favore, è un film di una solidità impressionante, lo metto vicino, come hanno già fatto altri, a Gravity, che racconta una storia simile, in una situazione simile, poi è bello perché sono proprio film opposti, lì c'era l'assenza di gravità, qui è tutto affonda, e nonostante tutto lui ce la fa, mentre invece nello spazio c'è un po', nello spazio di Gravity c'era un po' più di cinema, di situazioni strane come questo Clooney che salva un po' tutto. Questo è proprio viene da dire realistico, realista, lo è in un certo senso, sì, è fedele, è genuino, sì, fedele film, sì. Forse è l'aggettivo migliore, è onesto anche, sì, onesto, diciamo, ecco, sì. È vero, condivido il dispiacere che sia un po' passato in sordina, perché è un cinema d'autore più difficile, ma che secondo me può piacere a tutti, e chi non sta piacendo è perché ha delle tare genetiche ed è una persona malvagia. Soprattutto leggevo, in questo film guai addormentarsi perché ci si perde molto. Ma no, adesso non dico che ci si può addormentare tranquillamente, però se ti perdi quei 3 minuti non succede niente, voglio dire. È un film in cui sei lì, te lo vivi tranquillamente. Ogni tanto vanno bene questi film, piuttosto che l'adrenalina e sempre appunto la sopravvivenza, è sempre la sopravvivenza. Qui Redford sembra che non gliene freghi, anche quando gli passano vicino le navi cargo e non lo vedono. Ok, mi dispiace, però ci riprovo. La vive nel modo giusto. Dopo 7 giorni senza acqua non hai tanto voglia di, e senza nessuna persona, e forse non hai la forza neanche di incazzarti. Forse chissà che non volesse andare in mare per rimanere da solo e per forse andare incontro a quel destino. Forse quella lettera arriva da prima più che dopo, non lo so. Sì, infatti all'inizio del film, prima del naufragio. Sì, la cosa bella è questa, che è un film silenzioso, quindi il personaggio non sta lì a rimuginare, tu non senti lui rimuginare, quindi hai anche un po' di spazio per affezionarti, per chiederti qualcosa su di lui. Esatto. Senza che ti venga detto da una scena, un dialogo, un monologo che sinceramente stanca. È un po' come i film di Haneke, che ti fai tante domande, ma alla fine non sono domande essenziali, perché Haneke non ti dà nessuna risposta, e va bene così. Meno è meglio, e funziona. Questa cosa non la capiscono in molti. Meno è meglio, mettetevelo in testa, in qualsiasi tipo di storia. Qui soprattutto. Qui sì. Molto. Comunque, a proposito, J.C. Chandor, da tenere d'occhio, prossimo film 2015, A Most Violent Year. Si, stavo guardando. C'è Jessica cast. Chastain, di nuovo Oscar Isaac, Alfred Molina, chi se ne frega, però sono gli altri due. È sparito da un po' poi Molina. Sì, vabbè. E sembra interessante, non c'è ancora nessuna trama, però. Quando sì, non so se... Sarà una... Quindi è una sceneggiatura originale, sempre sua. Sì. Sono già quei due attori lì, va più che bene. E... anche Margin Call non mi ha fatto impazzire, però è un bel film sul fenomeno, sulla crisi, su Wall Street. A proposito, visto che l'altra settimana si parlava di quello di Scorsese, cioè su Sky On Demand ancora, credo, l'ho visto lì, recuperate anche quello. Molto bene, e recuperate, ti sei dimenticato di rispondere a una domanda, che era quella su Jim Jarmusch, di me. Ah, vabbè, però ne ho già parlato. Proprio io. Sì, può darsi. Vabbè, dal proposito. I miei preferiti sempre... di Jarmusch, quindi sì, condivido pienamente l'entusiasmo. A tal proposito, sempre jarmusciano, sempre su On Demand, guardatevi Leningrad Cowboy Go America, che è un capolavoro, è meraviglioso. E... sì, perché c'è anche lui, giustamente. Ma poi è molto jarmusciano. Lui c'è, piccola parte, lo vedrete, lo riconoscerete benissimo. E boom. Prossima sì. Puntata, non lo so. È che più o meno una volta a settimana esce qualcosa, ma forse ce n'è qualcuna vuota. E questa c'è Monuments Man, però insomma. Sì, che non è proprio, è appunto l'unico, quindi magari il podcast potrebbe slittare, la recensione può darsi che la mettiamo. Sì, a meno che non vuoi vedere quello di Verdone, No, favore. Vedrò quello indiano, che c'era anche a Locarno, il mio amico Vijay. Ah, sì. Che già volevo vederlo a Locarno, insomma. Però sì, fare una puntata su quei due lì sembra un po' troppo. Vabbè, insomma. Invece quella dopo esce 12 anni schiavo, yeah. Che sicuramente meriterà un po' di chiacchiere, poi ovviamente c'è anche... ovviamente no, c'è anche Saving Mr. Banks, che a te interesserà, immagino. Già scaricato, sì. Sì. Vabbè. Lego Movie, che eviteremo accuratamente. Esattamente. E poi dopo, sì, arriva Snowpiercer finalmente. No, no, sì, sì, tra 3 settimane. 27, sì, 3. Ed esce anche Tyr, quello che ha vinto il Festival di Roma. Sì, vabbè. Di Alberto Fasulo, che non credo arriverà in nessun cinema, ma vabbè. E La Bella e la Bestia, che ha tutto contro, Vincent Cassel, no, però c'è Lea Seydoux, magari un'occhiata gliela diamo, dai. Per chiudere, vi ricordiamo che San Valentino, venerdì, al cinema ritorna Colazione da Tiffany, se vi interessa. È anche bello comunque rivederla al cinema, anche sfidanzati, è triste magari, ma... Anzi, sì, trovatevene una per quella sera. A proposito, poi visto che ha qualche punto, quasi citato da Ewan Davis, il gatto senza nome. Gatash si chiama. Sì. Chiudiamo, io ribadisco, ormai lo starete vedendo tutti, ma ce l'avete consigliato voi, comunque uno di voi, True Detective, che è arrivato l'altro ieri alla quarta puntata. È una meraviglia, c'è Matthew McConaughey vicino a un altrettanto bravo... oddio, come si chiama? Woody Harrelson, girato da Dio, scritto da Dio, interpretato da Dio, uno standard televisivo mai raggiunto. Nella quarta c'è un piano sequenza pazzesco, vedetevela. E a proposito di Matthew McConaughey, oggi ho letto che hanno spiegato perché Matthew McConaughey fa quel canto strano in The Wolf of Wall Street. Pare che sia la cosa che lui fa prima di andare in scena, di recitare, è un suo rito che fa per concentrarsi, una meditazione, e sembra che DiCaprio l'abbia visto e l'abbia detto, beh dai, mettiamolo nel film. E quindi, niente, avete visto come McConaughey si prepara a recitare. Già. E gli daranno l'Oscar? Boh. Non lo so. Chi se ne frega. Non gli serve, è bravo lo stesso. E su questa nota vi salutiamo. Viva Cary Fukunaga e ciao. Ciao. She swore that she'd be good to me. Mark well what I do say. She swore that she'd be good to me. She spent my money fast and free. The senator was our captain, he was a mighty dog. Served out to all the company a double share of strong. Everyone!